quello a cui corre istintivamente il pensiero nella prospettiva di un'analisi dei ceti popolari in rapporto al governo della città, ed è anche il momento più studiato nella storia dei rapporti fra aristocrazia e popolo. Scopo di questa relazione è vedere, appunto, relativamente alle città lombarde, quali mutamenti rispetto all'età comunale siano intervenuti nella fisionomia dell'aristocrazia cittadina, nei suoi rapporti col populus, in relazione appunto al governo della città. E forse conviene subito dire che cosa si intende qui per città, perché io temo che, si è constatato in questi giorni che il concetto di città, soprattutto da un punto di vista politico, è quanto mai elastico e può comprendere delle realtà estremamente diverse. Dico alcune cose molto generiche, due sostanzialmente. Primo, il numero degli abitanti, o meglio, in Lombardia nel 400 c'è un ducato, come probabilmente tutti sappiamo, che fa capo a Milano, un territorio, mettiamo, di 25-30 mila chilometri quadrati. Ci sono solo 10 o 12 centri che hanno il nome di città. Ci sono molti altri centri che hanno delle dimensioni demografiche abbastanza consistenti, parecchie migliaia di abitanti, però il titolo di città è riservato soltanto a 10 o 12, non le elenco tutte, verranno citate nel corso della relazione. Quali sono, direi, le caratteristiche principali di queste città? Un numero di abitanti abbastanza consistente. Le cifre sono indicative. Per esempio Milano, di cui peraltro io non parlerò in relazione al problema dell'aristocrazia perché è un caso troppo particolare, perché è la residenza del Duca, Milano sfiora i 100.000 abitanti probabilmente, verso la fine del 400. Cremona, secondo dati, ancora il Beloc insomma, è fra i 25, con delle oscillazioni fra fine 400 e inizi 500, fra i 25.000 e i 40.000 abitanti. È difficile stabilire nei vari periodi. Per Parma e Piacenza, che non sono propriamente Lombardia oggi, ma sono totalmente Lombardia nel 400, la cifra presumibile è di 20-25.000 abitanti. Pavia è forse intorno a 20.000 o poco meno, e si scende a cifre un po' inferiori per altre città minori, per esempio Como, per esempio Lodi, per esempio Novara. La cosa più significativa però è l'estensione del contado, cioè il territorio su cui queste città, nonostante facciano parte di un ducato e quindi nonostante debbano riconoscere l'autorità di un duca, il territorio su cui queste città esercitano una certa giurisdizione. Anche queste sono cifre approssimative, però grosso modo si può dire che il territorio di Piacenza e di Parma è sui 2.200-2.500 chilometri quadrati. Il territorio di Milano è molto più grande, supera i 4.000 chilometri quadrati. Il territorio di Pavia è di circa 3.000 chilometri quadrati. Estensioni minori hanno i territori di Lodi, di Como, di Novara, però siamo sempre intorno perlomeno ai 1.000 chilometri quadrati. Cioè, se si può fare un confronto, corrispondono grosso modo questi territori per l'Italia padana, cioè la Lombardia di cui parliamo, alle attuali province. No? Fra l'altro sono dimensioni, direi, forse più grandi di quelle delle città toscane. No? Il contado di Firenze è piccolo, in proporzione sempre alla grandezza della città. Il contado di Pistoia non arriva a 1.000 chilometri quadrati. Il contado di Pisa ha questa caratteristica che in senso proprio è molto ampio, ma il territorio su cui effettivamente Pisa esercita un controllo, cioè quello più a ridosso delle città, a parte la Bassa Maremma, direi, se si considera questo territorio, è ugualmente abbastanza ristretto. È uno dei più grandi, ma è sempre abbastanza. Comunque questi sono problemi diversi. Cioè, quando noi allora parliamo di città lombarda, dobbiamo avere in mente il fatto che sono poche, hanno un numero di abitanti consistenti e soprattutto hanno questo vasto territorio. Quali sono i mutamenti più importanti dal punto di vista dei rapporti nobiltà-popolo? Direi il mutamento più rilevante nella nostra prospettiva di distribuzione del potere fra i gruppi sociali e dei modi di esercizio di esso e dei suoi contenuti è la perdita di peso politico dei ceti popolari, come del resto è ben noto. Una perdita di peso politico che trova riflesso immediato e formale nelle istituzioni di governo delle città, se le esaminiamo tenendo a mente quello che era il governo comunale, poniamo alla fine del 200 o agli inizi del 300. Anche nelle città lombarde, come in genere nelle altre città suddite dell'Italia centro-settentrionale, suddite nel senso che fanno parte di uno Stato più grande di loro che le comprende, i consigli principali per il governo del comune sono di regola due: un consiglio generale e un collegio più ristretto che prende nomi diversi a seconda delle città. Si possono chiamare savi, oppure sapienti, sapientes, oppure anziani, oppure deputati, deputati ad utilia, oppure ad regimen communis, eccetera. Però nonostante questa varietà di nomi, la sostanza è spesso la stessa, cioè un consiglio generale, un consiglio ristretto. Io dirò molto spesso consiglio degli anziani, perché è il nome più diffuso in Lombardia. I criteri di composizione dei due consigli e i criteri di elezione e la durata dell'ufficio variano a seconda dei luoghi. E anche all'interno delle singole città ci sono dei mutamenti. In generale, però, e lasciando da parte i periodi di crisi e di sovvertimento, i periodi di crisi di tutto il Ducato, per esempio, ci sono dei grossi rimescolamenti, la situazione si può forse riassumere in questo modo. Il Consiglio Generale è composto di circa 100-120 membri, alcune città 60, altre città di più, ma la media è questa. Restano in carica da un minimo di un anno, che è il periodo più normale, ad un massimo di 2 o 3 anni. Il Consiglio Minore è composto, il Consiglio degli Anziani, è composto di regola da una dozzina di membri, sino a un massimo di 15, e resta in carica per un paio di mesi. Sono previsti vari accorgimenti per far sì che in un così rapido avvicendarsi di persone vi sia una certa continuità di fisionomia e di governo. In genere si ovvia a questo con l'accorgimento che 2 o 3 anziani del turno che scade, questo turno si chiama muta molte volte in termine tecnico, cioè il gruppo di anziani che cambia, resta in carica anche per il bimestre successivo. La cosa da notare subito è che non esistono altri consigli più ampi di questi. Solo in casi rarissimi, in occasioni di eventi straordinari, si procede a convocazione di assemblee più numerose che tuttavia restano in carica giusto una seduta o per il breve periodo dell'emergenza. Per esempio a Piacenza nel 1462 c'è una grossa insurrezione contadina. Molte migliaia di contadini arrivano sotto la città. Allora il Consiglio Generale convoca i paratici, le corporazioni, fino a un numero di 400 o 500 persone. Però, cessata l'emergenza, non si parla più di convocazione di paratici. Fra l'altro, si può dire subito che in questo caso non si crea nessuna solidarietà fra la plebe urbana, gli artifices urbani e i contadini in rivolta, no? Si chiudono le porte. Sono dunque organi di governo molto ristretti e ancor più ristretti risultano se si considera che quelle 50 o 40 o 60 persone che costituiscono l'anzianato nel giro di un anno sono in realtà un unico corpo col Consiglio Generale. Sono tratti per lo più dal Consiglio Generale. In certe città il numero dei consiglieri e la durata in carica del Consiglio risultano stabiliti in base al numero delle mute di anziani che si succederanno. A Novara, per esempio, dove gli anziani sono 15 e restano in carica 3 mesi, i consiglieri sono 60, cioè 15 per 4 trimestri, e così via. È abbastanza raro invece che gli anziani vengano tratti da una lista di persone distinta da quella dei consiglieri. Come vengono eletti o designati i consiglieri e gli anziani? Le città lombarde del 400 non sono libere, fanno parte dello Stato sforzesco ed è comprensibile che il duca stia molto attento a come nel suo dominio si costituiscono i consigli. Le procedure di elezione o designazione sono stabilite dal duca, ci sono dei decreti ducali che regolano questa materia. E il duca si riserva sempre, almeno teoricamente, il diritto di approvare o respingere le elezioni fatte. Tuttavia, come principio generale, direi che il duca non pretende di intervenire direttamente nella scelta dei consiglieri e degli anziani. Un intervento diretto del duca può capitare in periodi di disordini o di scontri particolarmente accesi, oppure quando si vuole dare avvio a una nuova strutturazione dei consigli. Però la regola generale è che sono i cittadini che eleggono i loro rappresentanti. Ed è facile notare subito che anche in Lombardia funzionano quei meccanismi di designazione calibrati e controllati, come li ha illustrati per la terraferma veneta il Ventura, che rimandano a un ceto di governo dalle marcate caratteristiche oligarchiche. I modi di designazione sono diversissimi da periodo e da città a città, ancora una volta, ma direi che in linea di massima vale questo principio, che i consigli generali sono costituiti per designazione da commissioni ristrette di cittadini. Gli anziani sono estratti a sorte o dall'elenco dei consigli generali oppure da altre liste che però a loro volta sono compilate con criteri analoghi, cioè anche queste liste sono compilate da gruppi ristretti di cittadini incaricati di questo. A Como, ad esempio, sono 4 cittadini designati all'inizio da ufficiali ducali e poi direttamente dagli anziani, ad eleggere ogni 3 anni 150 consiglieri ordinari. A Parma e a Piacenza sono invece gli anziani dell'ultimo mese dell'anno che eleggono il consiglio per l'anno successivo. Credo che sia una situazione abbastanza diffusa, ma siccome per la Lombardia non erano ancora state fatte queste ricerche, è evidente quindi che si tratta di un meccanismo molto selettivo e controllato ed è evidente che molto facilmente si delinea la tendenza alla frequente riconferma delle stesse persone. Per quello che riguarda il Consiglio Generale, ad esempio, laddove abbiamo per un arco di tempo abbastanza ampio i nomi dei consiglieri, come a Piacenza o a Parma o a Como, purtroppo non tutte le città lombarde hanno i verbali dei consigli comunali ed è solo 3 o 4 e quindi il quadro è necessariamente limitato. Si può vedere che mentre un certo numero di persone siede in consiglio, si potrebbe dire occasionalmente, 1 o 2 volte nell'arco di un quindicennio, Nello stesso periodo c'è gente che ricopre la carica di consigliere per 4, 6 o 7 volte. È presente cioè in consiglio un anno su 2 o perlomeno un anno su 3. Questa impressione di un impianto di governo oligarchico risulta rafforzata se si considera poi la prassi effettiva, prassi per cui quasi dappertutto il Consiglio generale viene convocato molto raramente. La regola è una volta all'anno, quando per esempio si accoglie il nuovo podestà oppure in casi abbastanza eccezionali, mentre il grosso dell'attività viene svolto dagli anziani. E anche nel caso degli anziani, gli anziani si riuniscono certe volte tutti i giorni o comunque con una frequenza molto assidua, possiamo distinguere agevolmente nel cerchio più largo di coloro che hanno fatto parte dell'anzianato una volta tanto, un cerchio più ristretto di cittadini che con frequenza assai maggiore e direi quasi regolarmente ricopre la carica di anziano. C'erano due difficoltà a questa regolarità di partecipazione all'anzianato. Una era, c'erano varie difficoltà, comunque alludo a due possibilità che i cittadini più influenti avevano per assicurarsi una partecipazione regolare all'anzianato. Un ostacolo era rappresentato dalle cosiddette contumace, non so se è chiaro, sì, la vacatio, cioè chi era stato anziano per un periodo, per 2 mesi, 6 mesi, un anno, non poteva più essere anziano. Non avrebbe potuto, appunto, perché in realtà non erano rigide questi periodi di vacanza. Un altro rischio era l'estrazione a sorte, no? Però capitava che questi cittadini influenti, se in un anno in cui io ho calcolato che avevano una probabilità su 2 in media di essere eletti anziani, se non entravano in quell'anno, certamente avrebbero fatto parte del Consiglio generale dell'anno successivo e allora potevano riproporre le loro possibilità di essere eletti all'anzianato. E poi c'è un meccanismo che direi è noto anche per altre città, quello dei cosiddetti aggiunti o requisiti. Cioè, gli anziani hanno facoltà in quasi tutte le città lombarde, in momenti delicati, di associare a sé nella deliberazione un gruppo di cittadini, che sono appunto detti aggiunti. Non è una magistratura che abbia una regolamentazione precisa, cioè dipende proprio dalla volontà e dall'arbitrio degli anziani in carica. Lo scopo effettivo anche è quello di dare alle deliberazioni dell'anzianato una maggiore autorevolezza in momenti difficili. Però dal punto di vista dell'analisi della classe dirigente, dei ceti dirigenti, diciamo così, si può vedere che scorrendo i nomi delle persone che compaiono più facilmente fra gli aggiunti, ritroviamo quelle stesse persone che più frequentemente compaiono nell'anzianato. In sostanza, se un cittadino influente si trova a non essere anziano al momento di una decisione di rilievo per la vita della sua città, può essere recuperato in consiglio attraverso il sistema degli aggiunti, che in sostanza garantisce una continuità di presenza che i meccanismi della contumacia e della rapida rotazione delle cariche avrebbero preteso di escludere. Sono quindi organi di governo abbastanza ristretti, diversi da quelli del periodo popolare, diciamo, nella storia del comune, e diversi anche, ma questo è un altro problema che non si può affrontare qui, da alcune altre città italiane quattrocentesche con certe caratteristiche di governo largo, per esempio Firenze, per esempio Lucca, per esempio Siena, hanno degli organismi diversi da questi delle città soggette. Ecco, su questo che il fatto principale, cioè la riduzione del peso politico dei ceti popolari nel governo della città, conviene forse fermarsi un momento, perché in effetti è un mutamento importante nella storia della vita urbana in Italia e anzi è stato indicato come un punto di svolta nella storia di tutta la società italiana, come una specie di tappa, di svolta nel filo rosso che permetterebbe di seguire la storia dell'organizzazione politica in Italia. Non solo, si è anche spesso messo in relazione questa crisi della partecipazione popolare al governo con l'avvento dello Stato regionale, ma non nel senso delle strutture politiche regionali, nel senso di una specie di congiura aristocratica. Per esempio, mi pare che questo tema sia un po' presente in Ventura, in cui si fa presente la identità di interessi fra il patriziato dominante a Venezia e la costituzione di un patriziato chiuso nelle città soggette. Ora, questo è un problema molto grosso e purtroppo sulla stratificazione sociale delle città italiane, mi pare, nel 300 e 400, ne sono sicuro per la Lombardia, ma mi pare che a parte la Toscana e alcune altre regioni fortunate, la bibliografia è abbastanza scarsa, abbiamo poche notizie. E io vorrei però mettere in relazione un fattore in questo processo, no? Un fattore che indubbiamente non è primario, nel senso che rimanda a trasformazioni più profonde nel corpo della società italiana, ma è la diversa situazione in cui viene a trovarsi una città col dilatarsi degli spazi politico-territoriali e con la perdita che lo spazio politico urbano conosce nel passaggio all'interno di uno Stato regionale. Cioè, quando, come avviene nel 300, un mutamento politico che si determina a Milano o a Novara finisce per condizionare in modo determinante la situazione politica di Piacenza o di Lodi o viceversa, ed è il caso normale, quando cioè si è creato un sistema di rapporti intercittadino e interregionale, per cui gli orientamenti politici di una città sono condizionati molto più da questa situazione complessiva che non da una dialettica sociale interna, è chiaro che nella vita politica di una città hanno maggior peso quelle forze che sono più direttamente collegate a questo sistema. E viceversa, entrano in crisi quelle forze che sono collegate più a un modo di lotta politica esclusivamente urbano. Cioè, da che cosa dipendeva la forza politica del popolo, diciamo, nel 200, agli inizi del 300, dipende dalla cronologia delle diverse città? Ecco, forza politica di ceti sociali che non hanno ricchezza, perché sono abbastanza spesso, non sono il popolo minuto, ma sono certamente fasce sociali spesso in media meno ricche di quelle che detenevano il potere. Io direi, del resto è stato già detto, io riassumo. Cioè, la forza del popolo dipende dalla capacità di far valere in un'assemblea la forza del numero e della maggioranza, dalla capacità materiale di occupare negli scontri cittadini delle strade, delle piazze e delle contrade, dall'essere organizzato in gruppi militari o potenzialmente militari, cioè capaci di armarsi e che erano in grado di armarsi per difendere la città, uscire in battaglia o anche sostenere una fazione. Ancora dall'avere forme di organizzazione politica sue proprie. Sono tutti elementi di forza che rimandano appunto a un campo di lotta e di vita politica urbano, inframurario, in cui il governo si esercita attraverso i cittadini, o comunque in cui le armi materiali del popolo possono diventare determinanti. Ecco, tutto questo fra 300 e 400 muta, e io direi questo è certamente un fattore importante, a parte quella che potrebbe essere una dialettica interna di ceti sociali, un fattore importante per capire la crisi degli organismi di popolo. E appunto questa constatazione mi pare permette forse anche di sdrammatizzare il significato generale di questa crisi del governo popolare all'interno della città. In questo senso, se questo che abbiamo detto è vero, quella parabola di crisi della partecipazione popolare al governo non può avere il significato di tramonto di una generale organizzazione politico-sociale che avrebbe raggiunto un suo punto ottimale, ma la crisi di una soltanto delle aree di organizzazione politica di quella società che eccezionalmente si era potuta venire organizzando in quelle forme istituzionali. È la crisi di un modello democratico realizzatosi in condizioni artificiose, felicemente artificiose se vogliamo, ma troppo particolare per essere assunto a punto di confronto per misurare su di esso lo sviluppo della società italiana nel suo complesso. Tra l'altro, questa situazione di crisi degli organismi popolari che si è determinata nel 300, nel momento direi di passaggio dallo Stato cittadino allo Stato regionale, non muta nel 400, anche se sono venute meno le lotte più vivaci fra città e città. Non muta, cioè, quando ci troviamo di fronte ad uno Stato regionale assestato. E questo perché? Perché il Duca non trova alcuna ragione di dare a un popolo sostanzialmente disarmato un peso politico superiore a quello che la ricchezza e l'influenza del ceto popolare potesse pretendere, come era avvenuto nell'età del comune popolare. Un consiglio cittadino per il Duca, o se vogliamo nella logica dello Stato regionale, non è la volontà singola del principe, deve avere, direi, soprattutto due requisiti, e sono quelli che il Duca indica in molti decreti o statuti varati da lui. Deve essere rappresentativo delle forze maggiori e più influenti nella città. E deve perciò essere un interlocutore valido del governo centrale. Cioè un consiglio rappresentativo, che non sia fatto di uomini di paglia o di scarsa autorevolezza, serve molto al Duca, perché il problema del rapporto tra governo centrale e città può svolgersi più semplicemente attraverso questi, diciamo così, canali istituzionali di rapporti fra un consiglio rappresentativo e il Duca stesso o i suoi ufficiali. Quindi da un lato io direi indubbiamente la formazione dello Stato regionale ha un'influenza molto notevole in questa crisi degli organismi di popolo. Si può notare fra parentesi questo, che anche in Lombardia nel 400 abbiamo dei momenti in cui una presenza popolare è molto più forte. Se noi vediamo per esempio i verbali delle convocazioni dei consigli là dove sono rimasti, troviamo a un certo punto 400 consiglieri, 900 consiglieri, ma sono esattamente i momenti di crisi dello Stato regionale, no? L'esempio più famoso è quello di Milano, della cosiddetta Repubblica Ambrosiana. Quando muore Filippo Maria Visconti, passano 3 anni prima che il nuovo principe, Francesco Sforza, diventi duca di Milano. Allora si ricreano organismi di libero comune e governo largo, no? Anzi, è abbastanza interessante questo, perché all'inizio la Repubblica Ambrosiana, e qualcosa di analogo accade in tutte le altre città lombarde, dovevano essere questi organismi liberi un po' dei consigli di gestione del patriziato per sorvegliare il passaggio da un regime ducale a un altro regime ducale che era ritenuto inevitabile. Solo che l'intervallo è stato più lungo forse del previsto e in questa ricostituzione di organismi popolari a un certo punto, per esempio a Milano, i popolani guelfi prendono la mano ai maggiorenti, una serie di lotte interne che rimandano proprio alla situazione duecentesca. I maggiorenti di Milano o sono decapitati, ecco questi sono veramente tumulti popolari, oppure sono cacciati via, i Borromei devono correre sul Lago Maggiore e si salvano a stento e così via, insomma. Però giusto appunto queste cose accadono quando non c'è un governo, una struttura politica regionale. Dicevo dunque, influenza dello Stato regionale sul calo di potere politico del popolo. Però direi che il Duca, ed è stato detto anche nei giorni scorsi, esercita tuttavia una certa funzione equilibratrice, nel senso che forse le tendenze a una aristocratizzazione, cioè a un restringimento oligarchico dei ceti dirigenti, sono forse più forti quelli che si manifestano nelle città, di quanto non sia la volontà del Duca a costituire dei consigli ristretti. Per esempio, molti consigli nel 400, in alcune città nel 400 c'è la richiesta di ridurre il numero dei consiglieri del Consiglio Generale e questo consentiva dei meccanismi oligarchici, diciamo, più sicuri, no? E il Duca respinge sempre questa proposta, il numero è quello, 100, 150 a seconda dei casi, e resta quello. Un'altra richiesta è quella di quasi di successione ereditaria nel posto di consigliere, non ancora formulata esplicitamente, ma per esempio in alcuni casi muore un consigliere appena eletto. Allora il Consiglio fa presente che sarebbe meglio che il figlio o un altro della stessa famiglia subentrasse al padre. Ecco, il Duca non vuole introdurre invece principi di ereditarietà, cioè chiede una nuova estrazione. Non solo, c'è proprio la esplicita volontà del Duca a far sì che in questi consigli grandi, almeno formalmente, perché poi abbiamo visto come le cose funzionavano in pratica, tutte le classi, tutti i ceti urbani fossero rappresentati. Nel 1424, per Como e anche per Parma, non siamo informati di tutti i momenti per tutte le città, cito questi esempi perché sono esempi di cui siamo sicuri. Ma è probabile che queste situazioni si fossero verificate anche in altri luoghi. Il Duca stabilisce che i consiglieri vengano tratti dall'ordine mediano, cioè non dalla plebe e neanche dai più alti. La cosa però non funziona. Dopo 10 o 12 anni il Duca stabilisce che allora nei consigli di alcune città ci siano quello che mi pare è stato detto ieri per Vienna, un terzo di mediocres, un terzo di minores e un terzo di maiores. E ancora alcune città fanno resistenza a questo principio. Per esempio Cremona negli anni 70 cerca di mettere in moto un meccanismo per cui, erano meccanismi di estrazione molto complicati, per cui in pratica si rischiava che tutti i consiglieri fossero estratti da un unico ceto. Il Duca interviene e stabilisce un altro meccanismo di elezione per cui comunque avvenga, comunque sia la procedura, a consiglio ultimato ci debbano essere 50 mediocres, 50 minores e 50 meliores. Per cui Nella Lombardia del 400 c'è nei consigli una larga presenza di mercanti. Ecco, parlo di questo, accenno a questo problema perché il problema della presenza in consiglio dei mercanti nelle città che non hanno una vecchia tradizione mercantile, il caso di Venezia è completamente diverso, comincia ad essere sentito nel 400 e nel 500, nel senso che si comincia ad affermare il principio che solo le persone che non esercitano arte mercatoria e soprattutto l'arte vile possano far parte del consiglio. Ecco, in Lombardia questo certamente non avviene, cioè i mercanti sono anche nei consigli delle città che hanno meno tradizione mercantile. Questo non significa, io sto parlando come la maggior parte di noi, di aristocrazia in relazione al problema del potere politico, non in relazione al problema della nobiltà, no? Sono cose diverse. Si sa benissimo che il mercante non è nobile. E un esempio, deve passare da Cremona la Marchesana di Mantova, dove si ospita la Marchesana di Mantova. La casa più bella ce l'ha un mercante, che fra l'altro aveva la consuetudine, aveva ospitato pochi mesi prima il conte di Wittenbergo, che era venuto in Italia, e anche i fratelli degli Sforza, eccetera. E perché il duca accetti questa casa come luogo di ospitalità per la Marchesana, gli ufficiali ducali a Cremona mandano una lettera e fanno le lodi di questo mercante e usano molti aggettivi, dicono che è signorile, che è generoso, che è cortese, che è ricco, ma non dicono mai che è nobile, insomma. E mentre l'uso della parola nobile è molto preciso e sorvegliato. Questo era certamente l'uomo più ricco di Cremona in questo periodo, però non è nobile, no? Naturalmente siede in consiglio. Quindi aristocrazia inteso come partecipazione al consiglio o influenza politica, i mercanti ci sono, anche se in Lombardia, come direi in tutta Italia in questo periodo, il concetto di nobiltà si collega all'idea del tradizionale esercizio nella famiglia di facoltà di governo in città e soprattutto nel contado, no? Questo anche in Lombardia è chiarissimo, c'è un signore di Parma che chiede, un cittadino di Parma che chiede un'esenzione, cioè una agevolazione fiscale, e per vantare i suoi meriti dice che appartiene a una famiglia che ha sempre avuto vassalli e terre. Questo è il massimo di nobiltà. Insomma. Del resto anche per Padova, siamo in un periodo precedente, ma il Danono mi pare ha questi criteri. A Piacenza, alla fine del 300, un cronista di cui adesso non ricordo il nome e che ugualmente fa... Esatto, il Musso, nella sua descrizione della società piacentina, comincia proprio come il Danono. Prima le vecchie famiglie capitaneali o marchionali, a Piacenza non ci sono salvo una, che poi non è vero, e poi via via le famiglie feudali minori e poi alcuni dei cittadini. E dietro questi segue la molto più lunga lista degli ignobili, anche se sono quelli che troviamo più frequentemente in consiglio. Ecco, io vorrei adesso accennare più rapidamente agli ultimi punti, perché ed è questo, uno è questo, ed è un'osservazione che è già stata fatta per altre città, una situazione in Lombardia nel 400 di relativa pace sociale, nel senso che non ci sono grossi tumulti, insomma. Ci sono alcuni tumulti, ho detto male, pace sociale, non ci sono tumulti, ecco. E vorrei precisare questo, che bisogna stare attenti, secondo me, è un'osservazione che mi veniva di fare nei giorni scorsi, che un conto è dire che non ci sono tumulti, un conto è dire che non ci sia una rigida stratificazione sociale, no? Sono due cose molto diverse. E l'impressione, viceversa, l'impressione che si accompagna a questa mancanza di tumulti non è quella di un sistema equilibrato, no? ma quella di una pace sociale, diciamo così, imposta abbastanza rigidamente, cioè sono venute meno quei margini di elasticità di movimento dei ceti sociali che invece c'erano nel periodo precedente. Gli unici tumulti di cui io abbia conoscenza o sono rurali, ma è poca roba anche questa, salvo il caso di Piacenza, oppure sono molto occasionali tumulti per fame, cioè in caso, e questi sono, ma non so, si dice per esempio che ieri sera nella parrocchia Tal dei Tali si sono riunite 400 persone gridando perché non avevano pane, no? Oppure i mercanti sobillano i popolari perché quando il duca vuole introdurre un dazio sulla macina che aumenterebbe il prezzo del pane. Però in genere, ecco, in quest'ultimo caso che è capitato a Cremona, il cronista riferisce che uno era stato ferito soltanto, poi in realtà non era ferito ma era ubriaco, infatti erano andati a trovarlo e non l'avevano più trovato. Cioè non sono cose sanguinose. E ecco, questo è un aspetto che varrebbe la pena di approfondire, io lo accenno soltanto. Mi chiedo se a determinare questa situazione di non insurrezioni urbane, a parte questa irregimentazione provocata dallo Stato regionale, uso un'espressione generica, non influisca anche il fatto che proprio in questo periodo, mi pare, ma qui cominciano a funzionare dei meccanismi di assistenza e di sollievo del pauperismo che forse prima non funzionavano altrettanto bene. Per esempio, approvvigionamento annonario. È stato detto, ed è verissimo, che le città si sono sempre preoccupate, in qualsiasi regime, di rifornire il mercato urbano. Ecco, io nel 400 avverto una preoccupazione veramente spasmodica perché il prezzo del grano sia basso. Cioè c'è un intervento quotidiano del duca o dei suoi ufficiali. Per esempio, nel 1470 Milano è senza grano, allora tutte le città del dominio sono invitate a mandare grano a Milano, alla capitale. Il prezzo a Cremona aumenta. L'ufficiale ducale a Cremona convoca i maggiorenti dei cittadini e praticamente li costringe a portare grano dai loro solai in città per calmierare il prezzo. Così lui può scrivere al duca che c'era stato un momento nella mattinata che il prezzo era cresciuto di 4 soldi, cioè era aumentato del 20%, però alla fine della mattina il prezzo era già tornato sempre alto, ma abbastanza normale. Ecco, un intervento così diretto e tempestivo, io non so se si poteva verificare con la stessa regolarità in altri periodi. Un altro aspetto, che anche questo è tutto da studiare, la cosiddetta unificazione degli ospedali. Questo è un fatto che conosciamo abbastanza bene nei suoi aspetti esteriori, cioè in Lombardia, e non solo in Lombardia, in molte altre regioni d'Italia, con un singolare sincronismo, intorno alla metà del 400, capita che tutti i numerosi ospedali che dal Medioevo, da molto tempo, erano in una città, affidati a confraternite, a privati, eccetera, vengono unificati e si crea il cosiddetto ospedale grande, che assorbe i beni e le funzioni di tutti i piccoli ospedali, con un notevolissimo miglioramento di funzionalità. Cioè, mentre prima questi ospedali erano per lo più, molto spesso dei feudi, diciamo così, di famiglie cittadine che ne riscuotevano le rendite, no? Ma non davano elemosina né ospitalità. Nelle visite pastorali del 400 spesso si trova scritto: c'è un ospedale ma non si dà elemosina né si tiene letto, no? Invece gli ospedali grandi funzionano, insomma. Questo però è da vedere, mi sembra abbastanza sintomatico il fatto che questi meccanismi si mettano, e poi ce ne sono altri, i monti di pietà, anche questo grosso modo corrisponde al periodo. Cioè direi, alla esclusione del popolo come attore politico corrisponde, e bisogna vedere poi il nesso se regge, questo assorbimento, questa integrazione dei ceti popolari nel sistema, in forme molto più stabili, regolari e organizzate che non nel passato, attraverso la messa in opera di questi organismi assistenziali. Se noi guardiamo viceversa ai momenti di tensione che si verificano nella storia delle città lombarde, ecco, lo accenno soltanto, non bisogna cercare, secondo me, o è inutile cercare una dialettica nobili popolari o ricchi poveri o mercanti e nobili e così via, ma direi a quella che molto genericamente possiamo definire a scontri di fazione. Cosa si intende per fazione nel 400? Faccio l'esempio di Piacenza, che è uno dei meglio noti. Tutta la popolazione quasi obbligatoriamente fa parte di quattro partiti, è divisa fra quattro partiti che fanno capo a quattro grandi famiglie, Landi, Anguissola e così via. Ci sono dei periodici tentativi del Duca per sciogliere queste parzialitates, cioè dire le squadre non ci sono più. Fra l'altro, quando arriva una costante che si verifica in molte città lombarde, quando arriva un predicatore di successo, in genere riesce per un breve periodo a far sì che le squadre si sciolgano, no? Per esempio a Como arriva, non mi ricordo chi, nel 1424, tutta un'emozione nella cittadinanza, si sciolgono le squadre, si scrive un libro della Santa Unione, cioè un libro in cui sono scritti tutti i nomi di tutti i cittadini non più divisi per squadre, e solo quelli potranno partecipare ai consigli, e ci sono praticamente tutti. Lo stesso capita, non so, a Parma nel 1480, proprio in relazione ai criteri di costituzione dei deputati dell'ospedale nuovo. Non più per squadre, ma tutta la cittadinanza. Solo che sono pacificazioni che durano pochissimo, insomma. La squadra è un elemento estremamente radicato nella vita della città. Ma non solo nella vita della città, questo è importante, anche direi la sua influenza esce dalle mura e investe anche il contado. In quella più volte citata insurrezione piacentina del 1462, anche i villani risultano divisi per squadre, cioè si riuniscono in una località del contado, 3.000 contadini, decidono di mandare un'ambasceria al duca. Gli eletti sono 8 e sono 2 per ognuna delle squadre di questi signori e signori piacentini, che poi sono anche titolari di feudi nel contado. Ecco, se si deve cercare quindi un principio rigido di divisione della cittadinanza, direi che il problema delle squadre è da tenere presente. Fra l'altro, anche la composizione dei consigli dipende proprio dalla divisione della cittadinanza in squadre. Il duca stabilisce che se in una città ci sono 4 squadre, i 100 membri del consiglio siano divisi in 4 gruppi uguali, ogni squadra designa un quarto del consiglio. Questo è molto rigido in alcune città, Parma, Piacenza per esempio, a Como fra Vittani e Rusconi, Guelfi e Ghibellini. E non solo i membri del consiglio, anche delle magistrature o degli organismi di rappresentanza molto meno significativi, per esempio i deputati dell'ospedale, per esempio i cancellieri del comune. A Piacenza ci sono 4 cancellieri del comune, uno per squadra, perché ogni squadra vuole controllare che il verbale sia fatto in quella maniera. C'è una processione, si mandano 4 gonfaloni, uno per squadra e così via. Fra l'altro, i grossi tumulti che si possono constatare nelle città e nei contadi nel 400, direi che sono immediatamente ricondotti dai cronisti e dagli ufficiali ducali, eccetera, a questa situazione. Il problema, quindi, in sostanza, adesso con questo non si vuol dire ovviamente che Fra l'altro può risultare molto banale il discorso, no? Di dire non c'è lotta sociale ma c'è lotta di fazione, no? Soprattutto in una tradizione, e io non volevo dire quello. Però nell'esame della lotta politica all'interno delle città lombarde del 400, il primo elemento con cui fare i conti è indubbiamente questo, e secondo me questo rimanda appunto a quella stratificazione di tipo verticale che lo Stato regionale ha reintrodotto nelle città, insomma. E non è un caso che queste grandi famiglie sono poi quelle che hanno accesso, per esempio, al Consiglio Ducale, cioè agli organi centrali del potere dello Stato, o che hanno possibilità di agganci anche con la vita politica di altre città ducali, cioè sono i nuclei di potere più consistenti all'interno delle città. A me pare, questi sono più problemi aperti che non conclusioni, come loro stanno vedendo. In ogni caso, a me pare che sarebbe opportuno sdrammatizzare il problema del contrasto aristocrazia-popolani. E sarebbe più importante forse studiare il problema della composizione di questa aristocrazia, perché, è uscito questo libro di Bertelli che molti di loro conoscono, no? Il potere oligarchico nello Stato città medievale, in cui si sostiene una tesi che tutte le città in pratica sono sempre state governate da aristocrazie. Ecco, cosa su cui io personalmente non sono d'accordo per il periodo popolare del comune, che peraltro non ho studiato direttamente. Posso essere d'accordo che nel tardo Medioevo e fino a, non so, al 5, 6, 700 ci sono dei gruppi aristocratici ristretti nelle città. Ma il problema non è quello di dire c'è un'aristocrazia, il problema è quale aristocrazia, no? E su questo purtroppo, anche per questa polarizzazione, no? Nobili, mercanti, secondo me gli studi si sono fermati là dove si è constatato il consiglio chiuso, no? Oppure, bisogna dire, manca forse anche una parametrazione che permetta di capire quale tipo di aristocrazia, quali sono i punti di svolgimento di un'aristocrazia, il che significa dire quali sono i contenuti del potere, che cambia ovviamente, e le forme di esercizio del potere. Io faccio solo un accenno a questo punto. Alcuni dei caratteri dell'aristocrazia delle città lombarde nel 400, e direi, bisognerebbe dire soprattutto che bisognerebbe ricordare prima di tutto che l'aristocrazia cittadina è un'aristocrazia molto potente, no? L'avvento dello Stato regionale ha tolto alcune prerogative politiche, ma non ha inaridito le sorgenti di ricchezza e anche di controllo politico locale dei ceti dirigenti urbani. Questo è un punto su cui si potrebbe discutere moltissimo, ma lo devo dare così un po' per scontato. Direi anzi che per certi aspetti la posizione dell'aristocrazia cittadina, gli strumenti di arricchimento e di controllo politico dell'aristocrazia cittadina sono aumentati nel 400 rispetto a quelli disponibili nell'età comunale, e questo soprattutto per il controllo del contado, insomma. Che sembra paradossale, ma la città in Italia, mi pare, per l'esperienza che ho, riesce ad esercitare un effettivo controllo sul suo contado, controllo dal punto di vista di governo per le cose importanti per la città e controllo dal punto di vista proprietà fondiaria, solo dopo che ha perso l'indipendenza politica. Sembra un paradosso, ma è così. Nel 400 le città, a mio parere, non sono mai state padrone, non sono mai state padrone del loro contado come nel 400. La distribuzione della proprietà fondiaria in Lombardia si conosce in modo molto, molto meno esatto che in Toscana, dove abbiamo questi estimi e catasti, ma l'impressione che sia è che, per esempio, agli inizi del 500, c'è Coppola, nelle zone circostanti la città di Milano il 90-95% della terra è in mano ai cittadini, insomma, e percentuali di questo genere, naturalmente la percentuale di terra posseduta dai cittadini diminuisce man mano che ci si avvicina ai confini, però intorno alla città ci sono delle percentuali veramente altissime e questa mi pare una costante. L'ultimo punto che vorrei semplicemente accennare è l'aumento del numero di persone che sono impegnate professionalmente o semiprofessionalmente in attività politiche o parapolitiche. In sostanza, chi sono? C'è una grossa crescita di burocrazia piccola e media. Sono cose rilevate anche per altre città, per esempio per la Toscana, dallo Early ha fatto alcune osservazioni molto puntuali e direi se si vedono le fonti è abbastanza facile vedere. Appunto i notai impiegati nelle cancellerie, i controscrittori, i razionatores, i cancellieri, eccetera. Ci sono i tecnici proprio del governo, no? E in questa categoria hanno un'importanza molto notevole i giuristi. Non è un caso che nei consigli cittadini della Lombardia del 400 la presenza di un giurista sia ritenuta obbligatoria in ogni muta di anziani. Cioè una muta di anziani non è valida se non c'è un giurista o almeno due giuristi, o altrimenti si convoca come aggiunto. Insomma, non solo, nell'ordine di prestigio degli anziani i giuristi vengono per primi, ancora primi, per esempio nel Bordigallo, un cronista cremonese degli inizi del Cinquecento, ancora primi, questo è un caso un po' eccezionale, dei feudatari del contado, anche perché è questa cremonese una feudalità di minore importanza. Ma la cosa forse più significativa in questo aumento di politici professionisti o semiprofessionisti è quelli che, diciamo così, esercitano un ufficio non impegnativo, oggi diremmo forse a metà tempo, a tempo parziale, no? Cioè quelli che fanno parte di queste, non so, consigli, innumerevoli consigli che nascono nelle città per occorrenze particolari, commissioni di estimo per esempio, commissioni per decidere la ripartizione di una tassa, commissioni per provvedere, che so io, al rifornimento annonario della città. Ci sono gli organi normali e ci sono molto spesso degli organi straordinari. Ci sono centinaia e centinaia di persone che direi ruotano intorno alle magistrature principali, che gli ufficiali ducali si trovano sempre, come dire, nelle loro anticamere, no? È frequentissimo nei carteggi dalle città del dominio leggere: sono venuti da me 20 cittadini, 15 cittadini, abbiamo parlato di questo, di quest'altro. E cioè quella categoria che, di cui appunto aveva colto molto bene l'origine Leon Battista Alberti e che lui definisce quella degli statuali, insomma, quella dei politici, diciamo così, di professione. E che lui contrappone al modo di fare politica del vecchio comune cittadino, in cui il mercante per 6 mesi, per 1 anno faceva il consigliere, il podestà, e poi tornava a fare il mercante. No, adesso non leggo la citazione perché non c'è tempo, ma Leon Battista Alberti dice così bisogna fare, e invece adesso a Firenze, in tutte le città d'Italia, noi vediamo questi statuali o staterecci, che sono appunto espressioni dispregiative, per caratterizzare questo tipo di società politica che si sta formando nelle città del 400. Grazie, scusate il ritardo. Für die lombardischen Städte im 15. Jahrhundert ist zunächst wichtig zu sagen, keine dieser Städte ist frei, denn sie sind alle Teil des Herzogtums Mailand. Über Mailand wird Herr Chitolini am wenigsten sprechen wollen, weil es als Hauptstadt andere Verhältnisse hat als die übrigen Städte. Es war, glaube ich, sehr aufschlussreich, dass Herr Chitolini sagte, in der Lombardei des 15. Jahrhunderts gibt es nur etwa 10 bis 12 Städte, die Städte heißen, während es viele andere Siedlungen gibt, die mehr als, die ein paar tausend oder mehr Einwohner haben. Als Einwohnerzahlen gab er für Mailand 100.000, Cremona schwierig 25.000 bis 40.000, Parma, Piacenza je 20.000 bis 25.000, Pavia 20.000. Das sind also die 5 größten von den 10 bis 12. Como, Lodi, Novara hat er noch genannt. Dann, sehr wichtig, die Größe des Contado. Der Contado von Piacenza und Parma ist je etwa 2200 bis 2500 Quadratkilometer, der von Mailand 4000 Quadratkilometer, der von Pavia 3000 Quadratkilometer, aber auch die kleineren Städte haben kein Contado, der weniger als 1000 Quadratkilometer umfasst. Und hier sagt Herr Gettolini, im Vergleich etwa zu toskanischen Städten seien diese lombardischen Contadi, die etwa mit den heutigen Provinzen, also Landkreisen, übereinstimmen, verhältnismäßig sehr groß gewesen. Herr Gettolini hat sich vor allen Dingen vorgenommen, über die Veränderungen, die gegenüber früherer Zeit im 15. Jahrhundert eingetreten sind, teils durch den Eintritt sozusagen in das Herzogtum, teils aber auch durch die sonstigen politischen und sozialen Veränderungen. Ganz eindeutig ist der Verlust an politischem Gewicht der Popularen, also dessen, was wir in unserem Thema die Bürger nennen würden, im Gegensatz zur Stadtaristokratie. Die normale lombardische Stadt dieser 15. Jahrhunderts hat einen Concilio Generale, einen Rosenrat von etwa 100 bis 120 Personen, es gibt auch mehr, es gibt auch weniger, die im Durchschnitt oder in der Regel ein Jahr tätig sind, allerdings oft auch nur einmal im Jahr zusammentreten und im Ganzen aber höchstens 2 bis 3 Jahre lang amtieren. Dem steht gegenüber ein kleinerer Rat, der verschiedene Namen hat, Concilium degli Anziani, dei Savi, Sapienti oder so. Dieser engere Rat, das ist der eigentlich Regierende, der besteht aus 12, auch mal 15 Personen, amtiert nur wenige Monate, unter Umständen 2 oder 3 Monate, und hat die eigentliche Gewalt, aber daher auch der häufige Wechsel, damit die Gewalt nicht missbraucht wird. Viele Bestimmungen, die dafür sorgen, dass ein Anziane nicht unmittelbar wiedergewählt wird, dann sozusagen zum Dauermitglied dieses engeren Rats wird, gibt es. Wie weit sie eingehalten worden sind, ist nicht klar. Um die Kontinuität zu wahren, gibt es immerhin meistens die Regel, dass 1 oder 2 der Anzianen 2 Perioden hintereinander tätig sein sollen, damit sozusagen die Neuen Bescheid wissen. Herr Gettolini sagt aber, das Problem sei mehr theoretischer als praktischer Natur, denn die Anzianen kommen aus einer verhältnismäßig begrenzten Schicht, im Wesentlichen aus dem Großen Rat. Und wenn man also 12 Anzianen 6-mal im Jahr auswechseln muss, dann sind das schon 72 Personen, und damit ist also schon der halbe große Rat ungefähr erfasst. Es ist, und das ist das Wichtige, im Wesentlichen sind es Leute des Stadtadels, von dessen Zusammensetzung her kommt nachher noch die Rede sein wird. Der Herzog, das heißt also der Stadtherr im äußeren Sinne, greift nur selten in die inneren Verhältnisse ein, im Wesentlichen nur, um dafür zu sorgen, dass nicht irgendetwas wie zum Beispiel eine übertrieben oligarchische Tendenz, abschließende Tendenz des Stadtadels zu sozialen Unruhen in der Stadt führt. Es muss eben dann ab und zu auch ein reicher Kaufmann mit in den engeren Rat oder in das Kolleg der Anzianen gebracht werden. Einen wichtigen Grund für die Veränderung des sozialen Gefüges in der Stadt oder sagen wir besser des Zusammenlebens der verschiedenen sozialen Schichten in der Stadt. Einen besonderen Grund dafür sieht Herr Gettolini vor allen Dingen in der Tatsache, dass die Städte als Bestandteil eines Staates, ich nenne das jetzt so, eben des Herzogtums, ganz andere Beziehungen nach außen haben, als sie vorher hatten. Sodass also die äußeren Beziehungen zu dem Herzog, zu den anderen Städten etc. wichtiger werden politisch als die inneren Verhältnisse. Die inneren Verhältnisse müssen hinter den äußeren Beziehungen zurücktreten. So kommt es auch, dass Stadt wie im 13. Jahrhundert wo die inneren Verhältnisse das Wichtige sind und die Popularen dank ihrer Mehrzahl und dank ihrer Organisiertheit in kampfkräftige Gruppen sich über die an Macht und Einfluss an sich reicheren, über die an Macht und Reichtum einflussreicheren Adligen hinwegsetzen können oder sie jedenfalls sehr stark einschränken können. Demgegenüber macht sich nun im 15. Jahrhundert wieder geltend, dass eben Einfluss hat, wer reich ist und dass es nicht nach der Zahl geht, sondern nach dem Gewicht. Und es kommt noch dazu, dass in einem Herzogtum wie Mailand der Herzog natürlich die reichen und einflussreichen Personen vorzieht, insbesondere wenn sie dann in den herzoglichen Rat oder als herzoglichen, in herzogliche Dienste treten. Ich überspringe das Wenige, was Herr Kittolini über die Ambrosianische Republik gesagt hat, obwohl das eigentlich sozusagen die Probe aufs Exempel war. 3 Jahre zwischen dem einen Herzogsgeschlecht und dem anderen, 3 Jahre, in denen die Bürger von Mailand genau wussten, dass es ohne Herzog nicht geht, aber eben doch ohne Herzog populärer sich wieder organisiert und verhalten haben als in der Zeit der Herzöge. Die Formen, in denen der Stadtadel versucht, sich abzuschließen und die also der Herzog unterbindet, sind etwa Verkleinerung des Consiglio Generale, Erblichwerdung der Ratssitze im Consiglio Generale oder gar in dem der Anzianen. Demgegenüber ist der Herzog bemüht, dafür zu sorgen, dass die Ämter im Consiglio Generale und andere gleichmäßig verteilt werden, etwa auf die 3 Stände der Mediocres, Minores und Majores oder in Piacenza später auf die 4 Parteien, von denen noch einmal die Rede sein wird. Wichtig zum Hervorheben schien Herrn Kittolini, dass es im 15. Jahrhundert in den lombardischen Städten keine Tumulte gegeben hat, die also soziale Gegensätze zum Ursprung haben. Er hat es dann wieder eingeschränkt, er hat gesagt, nicht, dass es keine sozialen Spannungen gegeben hätte, das möchte ich also auch ausdrücklich so wiedergeben, aber es gibt keine Tumulte und es war beinahe, wie wenn Herr Kittolini Herrn Haferkamp zitiert hätte, indem er gesagt hat, wenn dann eine solche Unruhe ist, etwa wegen des Brotpreises oder einer Mahlsteuer, dann sind diese Unruhen nicht blutig. Einmal ist einer verletzt worden, nachher hat sich herausgestellt, er war bloß betrunken. Also diese unblutigen Unruhen gibt es, sind aber sehr anders als das, was man in früheren Zeiten auch in Mailand gekannt hat. Einen wesentlichen Grund dafür, außer dem, sagen wir, Ausgleich, doch einem gewissen Ausgleich der politischen oder sozialen Spannungen, sieht Herr Kittolini vor allen Dingen in der Sozialpolitik der Städte, vielleicht sollte man lieber sagen, in den Wohlfahrtsmaßnahmen, die im 15. Jahrhundert nun sehr viel stärker deutlich werden, sich sehr viel mehr mit den Problemen der Armen und der Armenversorgung in der Stadt beschäftigen. Und er sagt, das sind 2 Dinge vor allen Dingen, wobei nun ein bisschen durcheinander ging, aber glaube ich doch für alle klar. Wann ist der Herzog derjenige, der eingreift und wann ist es die Stadt, der Stadtrat, der eingreift? Jetzt also im ersten Falle Getreideversorgung ist es unter Umständen der Herzog. Er hat ein Beispiel von Mailand, ich weiß das Jahr nicht genau, etwa 1460 oder 70 war es, gegeben, wo in Mailand Getreide fehlte. Der Herzog fordert alle Städte im Lande auf, Mailand mit Getreide zu versorgen. In Cremona wird der Preis erhöht und der herzogliche Kommissar sorgt dafür, dass im Laufe eines Vormittags die Preiserhöhung wieder rückgängig gemacht wird. Also strenge Preiskontrolle und Getreideversorgung. Eine der wichtigsten Maßnahmen ist ja hier auch in den letzten Tagen schon mehrfach angesprochen worden. Etwas, wovon bisher nicht gesprochen wurde, ist die Vereinigung oder Vereinheitlichung der Hospitäler. Um die Mitte des 15. Jahrhunderts, Herr Chetolini sagt auffälligerweise fast überall in Italien, werden die kleinen Hospitäler, die zum Teil zu reinen Pfründen geworden waren, in denen es kein Bett und kein Almosen mehr gab, sondern nur noch Einkünfte für die Familie, die also den Schutz dieses Hospitals übernommen hatte. Also um die Mitte des 15. Jahrhunderts werden alle diese Hospitäler vereinigt zum großen Hospital, Ospedale Grande, das dann wirklich wirksam auch Kranke, Arme und Alte versorgen kann. Und ein drittes, was im Zusammenhang mit der Wohlfahrtsmaßnahmen genannt werden muss, sind die sogenannten Monti di Pietà. Wir würden auf Deutsch sagen Leihhäuser, das heißt Häuser, in denen man gegen Hinterlegung von irgendwelchen Sachwerten Geld aufnehmen konnte, aus denen sich auch vielfach dann hier also in bestimmter Form meistens heute noch existieren. Es geht also neben der Ausschließung oder weitgehenden Ausschließung des Popolo aus den politischen, aus der Politik einher, eine weitgehende Fürsorge für den Popolo, Wohlfahrtsmaßnahmen. Man könnte also sagen, Mitbeteiligung war nicht mehr nötig, weil für die Interessen anderweit gesorgt wurde. Das war aber jetzt noch nicht geblieben. Wenn es keine Klassenkämpfe, das Wort hat er nicht verwendet, also keine Kämpfe, die aufgrund sozialer Spannung gemacht worden sind, in den lombardischen Städten des 15. Jahrhunderts gegeben hat, so heißt das noch lange nicht, dass in ihnen ein reiner Friede geherrscht hat. Es gab Parteienkämpfe. Und zwar ist das Charakteristikum, auch da fühlt man sich dann wieder an Herrn Haferkamp erinnert, dass in diesen Parteikämpfen die Trennungen oder die Trennungslinie innerhalb der Stadt vertikal läuft, das heißt durch alle sozialen Schichten durch. Zu jeder Partei gehören Angehörige aller sozialen Schichten. Und da hat Herr Chetolini dann eben das Beispiel von Piacenza erzählt, was er neulich schon in der Diskussion anbrachte. Vier große Adelsfamilien, die ihre Klientel haben und die schließlich gezwungen werden vom Herzog, dass also in den großen Rat jede ein Viertel entsendet, dass, und die dann selber dafür sorgen, dass sie zum Beispiel vier Kanzler bekommt, damit jedes Protokoll auch von jeder Partei kontrolliert werden kann, oder dass sie schließlich unter vier Fahnen aufziehen, statt unter einer Fahne, was für eine italienische Stadt schon was ganz Beträchtliches ist. Dass also die Parteien nun praktisch im Grunde genommen wichtiger werden als die Stadt selbst. Ganz kurz der Schluss. Wenn man für das 15. Jahrhundert das Verhältnis Adel-Bürgertum, Stadtadel-Bürgertum, entdramatisieren muss, weil es einfach nicht mehr so spannungsreich und so unruhestiftend war wie früher. So muss man doch wenigstens noch fragen, wer ist denn eigentlich Angehöriger des Stadtadels im 15. Jahrhundert? Und dazu ist zu sagen, dass die älteren Mitglieder, also die ältere Komponente des Stadtadels, die reichen Leute, die auch Grundbesitz auf dem Land haben, mächtiger und reicher und einflussreicher geworden sind, insbesondere auch bei der Kontrolle des Contado, denn etwas, nein, das kommt erst in den Vortrag von Herrn Schulz, aber die Stadtbewohner haben in zunehmendem Maße Güter im Contado gekauft, sodass also im 15. Jahrhundert in unmittelbarer Nähe der Mauern aller Contado im Eigentum von Stadtbürgern ist. Zu den Grenzen des Contado hin nimmt die Dichte des bürgerlichen Eigentums oder des städtischen Eigentums ab, während noch im 13. und 14. Jahrhundert die Macht der Stadt über den Contado vor allen Dingen auf Herrschaftsrechten beruht, beruht sie im 15. Jahrhundert weniger auf Herrschaftsrechten, die letztlich jetzt dem Herzog gehören, aber nun auf Eigentumsrechten, die natürlich noch sehr viel massiver sind. Und diese Rechte am Grundbesitz haben vor allen Dingen die alten Angehörigen der Adelsschicht in ihrem Besitz. Zu diesen Grundbesitzern, die also den wichtigen Teil des Stadtadels bilden, kommen nun hinzu bestimmte, um es mal grob zu sagen, Berufspolitiker, wie es sie also im 13. und 14. Jahrhundert in dem Maß noch nicht gegeben hat. Jedenfalls die allerwichtigsten Fachleute, die Juristen. Bei dieser Gelegenheit kam dann noch eine Ergänzung zum engeren Rat. Dem engeren Rat muss mindestens ein Jurist angehören, lieber zwei. Und das habe ich vorhin nicht gesagt, der engere Rat hatte die Möglichkeit, sich Adjunti, das heißt zugewählte Leute, zu assoziieren. Mindestens einen Juristen als Adjunto musste der Rat der Anciani haben. Also Juristen. Und dann hat er geschildert, sehr kurz, dass also die vielfältigen Kommissionen und Aufgaben, die die städtische Verwaltung und die städtische Politik mit sich bringen, mehr und mehr eine Klasse von Politikern entstehen lassen, über die Leone Battista Alberti mit etwas abfälligem Wort Statuali oder Staterecci beurteilt hat. Leute, die es überall gibt und die eben praktisch nichts anderes mehr taten oder die Hälfte ihrer Zeit mit nichts anderem mehr verwendeten als mit solchen politischen Geschäften. Ein Teil von ihnen ist auch infolge der Tätigkeit eben in die Stadtaristokratie hineingeraten. Das wäre es. Verso le 11 cosa facciamo? Quindi facciamo, non so se cominciamo la discussione e poi facciamo la pausa. Se si potesse fare la pausa tra 20 minuti sarebbe più, possiamo fare, diciamo, benissimo, sì. Certo, sì. È abbastanza pristino, preso sì, mezzo oggi mezzo. Siamo anche se no viene una pausa di una mezz'ora, insomma. Forse possiamo cominciare con le domande informative. Ecco, domande informative adesso, magari. Perché poi la discussione è giusta, è meglio pensarci un po'. Da i Fahrkosten erst gegen 11 Uhr abgerechnet werden können, ist es besser, wenn wir nicht gleich die Pause machen, sondern erst in einer Viertelstunde. Und vielleicht können wir anfangen mit informativen Fragen, denn Fräulein Bocchi sagt schon, Diskussion ist besser, wenn man erst nochmal drüber nachdenken kann, das heißt nach der Pause. Aber es gibt vielleicht einfach ergänzende Fragen. Forse c'è qualche domanda di informazione, perché Professor Chitolini ha anche riassunto soltanto quanto voleva, avrebbe voluto dire, e così forse. Herr Dürrmayr. Eine Wohlfahrtspolitik zugunsten der städtischen Konsumenten bedeutet, muss grundsätzlich eine Benachteiligung des flachen Landes bedeuten. Wie sieht das Stadt-Umland-Verhältnis in wirtschaftlicher Hinsicht in den lombardischen Städten aus? Thank you. politica sociale. Sociale, sì, pensavo nella parola più adatta. Assistenziale. Sì, ecco, grazie. La politica, politica assistenziale, dice il signor Dürrmayr, ha certamente più peso in città che non nel territorio, che non nel contano. Quale è la relazione economica tra contado e città? Scolizzi. Informale. Io non... non ho capito bene la domanda. No, lui ha detto una politica assistenziale nella città comporta un peggioramento dell'assistenza nel contado. No, no. E dell'economia sul contado. Sì. No. No. Comunque adesso vediamo se capiamo meglio nel parlare. Certamente in città ci sono queste forme di assistenza. Nel contado sono molto più rare, non sono assenti, ma sono molto più rare e direi non sono controllate dalla città direttamente, sono le comunità che hanno questo controllo. Non so se è questo anche... No. I fondi di Spagna... Dice che è a sfavore, c'è questa politica assistenziale che va a favore della cittadinanza, è appeso a sfavore del contado. Ecco, i prezzi bassi nella città sono prezzi bassi sul contado, nel contado. Ah, lei dice il... Sì. Questo certamente sì, tanto è vero che quando nei periodi di carestia, come è noto, i contadini spesso vengono in città, perché si trova più facilmente il frumento in città che non nel contado. Bisogna anche dire che siccome il grosso della proprietà fondiaria è nelle mani dei cittadini, il problema non è di una lotta fra i cittadini e i contadini e il contado, ma fra gruppi di cittadini più o meno interessati alla proprietà fondiaria, al controllo di questi, del frumento, di derrate alimentari. Non so, cioè non è questo un motivo di contrasto o di tensione fra la città in blocco e il contado, se non in certe lamentele, ma non diventa un elemento di scontro. In deutschen Städten des späten Mittelalters, insbesondere des 15. Jahrhunderts, geht der Versuch der Städte immer mehr auch Einfluss auf die Hospitäler zu gewinnen, die Kontrolle also auszuüben durch die Hospitäler, auch organisatorische Maßnahmen zu ergreifen, parallel mit dem Versuch, stärkeren Einfluss auf die Kirchen und Klöster auszuüben, stärkeren Einfluss insbesondere über die Pfarreien auszuüben. Gibt es dafür Parallelen in den italienischen Städten dieser Zeit? Nel tardo medioevo tedesco, specie nel XIV secolo, i tentativi di esercitare il controllo da parte delle città sugli ospedali va mano in mano con il tentativo di prendere più influenza sulle istituzioni ecclesiastiche, specie sulle parrocchie. Si può constatare anche e questo anche nell'ambito lombardo? Io credo che la situazione sia diversa, perché direi che le istituzioni ecclesiastiche nella città, anche prima del 400, sono molto più influenzate che in Germania dai ceti urbani. Non c'è una contrapposizione fra, se non raramente, fra un grande ente ecclesiastico che ha degli ospedali o delle parrocchie in città e la città. È un caso raro. Direi il capitolo della cattedrale della città, dalla fine del 200 in poi, prima magari anche il vescovo, ma il vescovo dalla fine del 200 sfugge spesso alla nomina da parte del capitolo, o da prima, dipende. Il capitolo ha una grande influenza sulla vita del clero secolare in città. Quindi tensioni di questo genere si avvertono semmai più nel contado, dove sono rimasti degli stabilimenti ecclesiastici sfuggiti a questo tipo o in mano a famiglie che non sono di quella città. Anche in Italia, anche in Lombardia, c'è la tendenza ad esercitare da parte della città un controllo sugli ospedali, soprattutto sui nuovi ospedali. E anche in questo caso direi che i ceti urbani riescono a controllare il loro ospedale. Molto spesso sono dei consigli di cittadini o nominati dal consiglio maggiore oppure nominati dal duca, ma sempre tenendo conto della situazione, che governano questi ospedali. Possono capitare dei contrasti fra il governo laico degli ospedali e la Chiesa. Ma direi questo è un fatto forse successivo, che direi si rende più evidente forse nel 500 che non nel 400. Per esempio a Milano i contrasti, mi pare, ma forse Prodi, anzi certamente lo sa meglio di me, i contrasti gravi fra il governo laico dell'ospedale e l'arcivescovo ci sono. Nel 400 c'è un'alta protezione dell'arcivescovo sull'ospedale, che però non interferisce gravemente nel governo dell'ospedale. Herr Chiesolini sagt auf die Frage, ob das in Italien so ähnlich, in der Lombardei so ähnlich wie in Deutschland sei, zunächst erstmal ganz einfach nein, anders. Und zwar deshalb, weil die kirchlichen Einrichtungen in der Stadt schon vorher, viel früher schon, weitgehend unter den Einfluss der Bürger gekommen sind, also eine Unabhängigkeit, Immunität etc., wie in Deutschland nicht stattfindet. Er sagt dann, dass innerhalb der Stadt, und das kann, ist wieder etwas, was für uns wichtig ist, das Domkapitel, es hat eben einfach jede Stadt ihren Bischof und ihr Domkapitel, dass innerhalb der Stadt das Domkapitel den Weltklerus, also den Pfarrklerus, sehr weitgehend beeinflussen kann und im Domkapitel sitzen meistens auch Bürger, sodass also da keine Probleme entstehen. Eher könnten solche Probleme im Contado entstehen, falls eine kirchliche Einrichtung einer Adelsfamilie zugeordnet ist, die nicht aus der Stadt stammt, oder falls es ein Kloster oder dergleichen ist, was bisher dem Zugriff der Bürger entgangen ist. Aber eine Bedeutung wie in Deutschland 14., 15. Jahrhundert ist nicht da, ist hier bereits sozusagen vorher abgemacht worden. Die Kontrolle über die Spitäler ist grundsätzlich in Hand der Bürger. Die einzige Frage ist, ob der Consilio, also der Rat von Bürgern, das Kolleg zur Leitung des Spitals vom Herzog oder von der Stadt eingesetzt wird. Gegensätze findet Herr Chiesolini aber eigentlich auch in wirklicher Form erst im 16. Jahrhundert, zwischen dem Spital und der Kirche, aber nicht zwischen dem Spital und der Gemeinde. Also dem von Bürgern geleiteten Spital und der Kirche, solche Dinge sind offenbar im 16. Jahrhundert in Mailand vorgekommen, im 15. aber nicht. Das ist die Antwort. Herr Nobili. Dopo c'ho anche una. Io... Lei deve parlare, no, deve parlare ancora di ospedali o di altre cose? No, di altre cose. Va bene, allora io domanderei un chiarimento sul termine ospedali. Perché ospedali è una parola di comodo. Noi abbiamo gli ospedali per i pellegrini, gli ospedali per i vecchi, gli ospedali per i bambini abbandonati e gli ospedali per i malati. La mia impressione è che quando siamo al 400, gli ospedali per i vecchi, gli ospedali per i pellegrini, gli ospedali per i bambini abbandonati vadano quasi scomparendo e che si rafforzino invece gli ospedali per la cura dei malati in connessione anche con i progressi della medicina. Domando se la mia impressione, per quanto lei ne può... Sì, perché è pochissimo. No, d'accordo, però dobbiamo mettercelo questo problema. Infatti, sì. Se la mia impressione è giusta. Fräulein Fasoli sagt, es ist merkwürdig, was mit dem Wort Hospital oder Spital alles bezeichnet wird. Pilgerspitäler, Spitäler für Alte, für Kranke, für Findelkinder. Und sie sagt, dass im Laufe des 15. Jahrhunderts mehr und mehr, und das hängt vielleicht auch zusammen eben mit der Vereinigung der Spitäler, von der Herr Cipollini sprach, die Fürsorge für die Kranken in den Vordergrund tritt und fragt, ob das vielleicht mit den Fortschritten, die die Medizin inzwischen gemacht hat, zusammenhängt. Sì, io so molto poco di questo. Gli ospedali sono soprattutto intesi per malati, nel senso che le strutture anche architettoniche, fra l'altro questi ospedali nascono quasi tutti con una con edifici abbastanza simili, cioè lunghi corridoi molto alti, delle crociere, si possono vedere ancora in quasi tutte le città lombarde l'ospedale vecchio, adesso si chiama ospedale vecchio, non più ospedale nuovo, ospedale grande, ma è rimasto. Ecco, per esempio a Pavia ancora un pezzo dell'ospedale è diventato, sì, sono prigioni, ospedali, università, ecco, c'è questo però, che l'ospedale non è un ospedale specializzato ancora, per quello che io riesco a vedere, cioè ci sono malati eletti per i malati, però c'è una, soprattutto l'ospedale è il centro di una rete assistenziale che è molto variegata. Per esempio non sono previsti, credo, ricoveri per anziani, però è molto frequente il caso, nei verbali delle sedute del Consiglio si dice questo tale che è molto vecchio, non può più, eccetera, prendiamolo come portiere dell'ospedale, prendiamolo come... Cioè c'è una forma di ricovero di tipo clientelare indiretto. Lo stesso, i bambini fin dall'inizio ci sono, magari non li tengono nell'ospedale, li danno a balia fuori, ma c'è un'assistenza per i bambini. Poi c'è il grosso problema degli esposti, questo certamente, gli ospedali per gli esposti non diminuiscono. Ecco, dicevo, rete assistenziale che si concreta poi, e questa è la forma per cui direi l'ospedale è più popolare in una città, attraverso le elemosine, cioè delle distribuzioni periodiche di frumento, oppure varie cose, non so, in genere... cose da mangiare oppure del vino, dipendeva anche dai lasciti che avevano vincolato l'ospedale a quella distribuzione. È abbastanza frequente nel giorno di quel determinato santo, si sa che l'ospedale distribuirà 20 staie di pane, oppure, ed erano distribuzioni che capitavano abbastanza. E dicevo, scusa, ospedali naturalmente ancora non lazzaretti, no? I lazzaretti sono una cosa diversa, cominciano... Vengono più tardi. Cominciano già alla fine del 400. Io poi ho trovato agli inizi del 500 a Milano un ricovero per poveri, che questo è abbastanza invece proprio istituzionale, no? Un asilo per poveri. Lo cita il Burigozzo agli inizi del 500 e a mia conoscenza è la prima notizia. Non so se... No, ma volevo precisare, quando noi diciamo ospedale usiamo un'espressione di comodo, questo, volevo metterlo in chiaro. Va bene, grazie. Cipollini sagt, dass es im 15. Jahrhundert in Mailand eigentlich noch kein spezialisiertes Spital gibt, das andererseits, er sprach von den Neubauten, die überall ähnlich, die Spitäler sind, lange Gänge, hohe Räume und so weiter, aber wenn das Spital noch nicht spezialisiert ist, so heißt das nicht, dass es nun gleichzeitig alles übernimmt. Das Mailänder große Spital hat zum Beispiel offenbar keine Abteilung, kein Altersheim, sondern der Spitalrat sorgt in seinen Sitzungen, versucht zu sorgen für die Alten. Kinder werden wahrscheinlich ausgegeben, das heißt an Ammen gegeben, außer der Zentralisierung von allen möglichen Fürsorgemaßnahmen ist vor allen Dingen auch Almosenverteilung eine Aufgabe, also Getreideverteilung eine Aufgabe des Spitals. Testamente, die also bestimmen, dass am Tag eines bestimmten Heiligen oder am Todestag des Gestorbenen etc. jährlich eine solche Verteilung gemacht wird. Und diese Tage sind bekannt, die Leute, die das empfangen wollen, kommen auch in Berufs. Das Spital ist also noch nicht Krankenhaus. Herr Vizzolini sagte aber, Ende des 15. Jahrhunderts hat er die ersten Spuren für ein Lazarett, das wäre wohl Krankenhaus, in Mailand und ebenfalls um die Zeit die ersten Spuren für ein Armenasyl, das heißt ein Heim zur Unterbringung von Armen. Cernobili, ma lei dopo la pausa? Lui dopo la pausa. Sì, perché ci sono interessi. Domando io un'altra cosa? No, ma lei che deve decidere. No, la signorina Fasoli. Domando io un'altra cosa. No, il problema delle squadre, che mi pare molto interessante. Lo voleva lei, Francesca? No. Va bene. No, perché in fatto di squadre, quartieri, da Francesca è piuttosto ben informata. No, niente, io domandavo, queste squadre, e lei ha portato come esempio la situazione di Piacenza, le quattro squadre. Queste quattro squadre corrispondono ai quattro quartieri in cui ci sono i palazzi di quelle solite quattro famiglie, o ed è cioè una divisione territoriale, o è una scelta della popolazione di appartenere alla squadra dei Landi, alla squadra degli Anguissola e compagnia bella? Die Frage nach den Parteien, ich muss ganz kurz einschieben, Herr Kittolini sprach für Piacenza von Squadre. Squadra ist an sich die Mannschaft, also die organisierte Partei. Fräulein Fasoli fragt, wie ist das mit diesen vier Parteien in Piacenza? Entsprechen die den Stadtvierteln oder entsprechen sie geografischen Bezirken innerhalb der Stadt, die etwa durch den Palast der jeweiligen Familie und die Umwohner bezeichnet sind? Oder beruhen sie sozusagen auf freier Wahl der Stadtbewohner, zu welcher der vier Parteien sie sich halten wollen? A Piacenza c'è in effetti una distribuzione nella città delle case dei principali casati in quattro punti diversi della città. E ci sono le case dei Landi, le case degli Anguissola, le case dei Fontanesi, le case degli Scotti. Io però non direi che l'origine della divisione della popolazione in squadre è territoriale, e certamente c'era la possibilità di aderire o non aderire a una squadra attraverso una forma di iscrizione, per così dire. Adesso io direi che è più una aggregazione intorno a delle famiglie. Poi poteva capitare che l'80% della popolazione che abitava nel quartiere dei Landi aderisse alla squadra dei Landi, o se cambiava casa cercasse di andare. Sì, quello non c'è dubbio. C'è anche uno studio su Piacenza in cui questo si vede abbastanza. Che non è poi molto quello di Nazaré Rocca, sì, sì. Ecco. Che quando è il momento buono ti lasci in asso. Sì, lui ha constatato, e questo è utile per chi non è piacentino, questa distribuzione nei quartieri. Io direi che è più un fatto successivo forse questa dislocazione in quattro quartieri rispetto all'aggregazione, diciamo, di rapporti personali di una famiglia a un'altra famiglia. Die Frage ist weniger einfach zu beantworten als zu stellen. Es gibt in Piacenza tatsächlich die vier Paläste der vier großen Familien an verschiedenen Stellen und ringsum wohnen auch die meisten ihrer Anhänger. Aber weder sieht der Chitolini dass alle Bewohner eines bestimmten Stadtteils einer Partei zugehören müssen, auch wenn es vielleicht mal 80% sind. Er weiß, dass es die Möglichkeit gab, sich einer bestimmten Partei durch Einschreibung extra zu verbinden, was nicht nötig wäre, wenn es automatisch durch geografische Gegebenheiten gegeben sei. Und vor allen Dingen sagt er, es ist nicht wahrscheinlich, dass der Ursprung dieser Vierteilung geografisch ist, sondern eher wahrscheinlich, dass auf die Vierteilung dann gefolgt ist, sozusagen eine Zusammenballung der Anhänger in vier bestimmten Gegenden der Stadt und nicht umgekehrt, dass die Gegenden der Stadt die Parteiung gemacht haben. Ich glaube aber, jetzt sollten wir die Pause machen. Fino al, io direi, 11:15. Io volevo fare una domanda concernente la questione della Romessa e volevo chiedere precisamente se c'è un meccanismo, diciamo così, di produzione di nuova nobiltà, cioè l'ignobile, mercante ignobile però aristocratico che partecipa ai consigli, che è inserito nel ceto dirigente della città, se desidera diventare nobile, cosa deve fare? Ci sono delle possibilità per lui di diventare nobile, deve andare dall'imperatore, deve andare dal duca, oppure c'è un meccanismo interno alla città stessa. L'esempio che di solito mi viene sempre in mente è un modello che è antico quanto la nostra civiltà, è quello di Roma, che è riportato da Sallusti. E quando parla, per esempio, di cos'è la nobiltà in Roma. Allora noi abbiamo, per esempio, che Mario, il famoso Mario, non è nobile, mentre è nobile il figlio. Cioè, la nobiltà, il criterio per definire la nobiltà in Roma, nell'epoca di Sallusti, intorno al centro, avanti Cristo è questo, cioè coloro che hanno ricoperto certe cariche pubbliche, come il consolato o come la pretura, non loro, ma i figli, i loro figli, sono di diritto, appartengono alla nobiltà. E infatti possono esporre nella loro casa i quadri, cioè le immagini dei loro antenati. Questo è un criterio. Adesso voglio sapere se ci sono dei criteri obiettivi in questo periodo, nel 400, nelle varie città, per definire la nobiltà e se dei criteri di produzione di nuova nobiltà. Nobili fragt nach dem Entstehen neuen Adels, ob es dafür feste Schemata oder feste Vorgänge gegeben hat, ob etwa der Kaiser oder der Herzog oder die Stadt nötig sei, um jemanden zum Adel zu machen, oder ob es so wie in Rom von Sallust beschrieben etwa die Möglichkeit gibt, dass jemand, der ein Amt ausgeübt hat, dann seine Familie adelig macht, das heißt, dass die Kinder dann adelig. Ma ecco, se il criterio, secondo me c'è una nobiltà che si può registrare oggettivamente, nel senso che è riconosciuta a un certo livello istituzionale, per esempio la nobiltà ritenuta necessaria per far parte di un consiglio, e questo è un discorso. C'è anche una nobiltà che non è, come dire, misurabile in termini così precisi, no? È il concetto di vivere nobilmente. Cioè, essere nobile è anche la considerazione che gli altri hanno del tuo vivere nobilmente. Quindi non si può rispondere in modo così rigido e purtroppo dalle fonti non sempre si capisce l'uso di nobilis applicato a questi due tipi di nobiltà. Io direi che i meccanismi per diventare nobili erano due sostanzialmente in Lombardia in questo periodo. Uno era una nobilitazione all'interno della città. Per esempio, appunto, come hai detto per Mario, anche il mercante cremonese, no, ma probabilmente suo figlio sarebbe stato riconosciuto e accettato come nobile, insomma. O due generazioni, tre generazioni, questo anzi a un certo punto poi si stabilisce ogni città, tre generazioni, quattro generazioni, è proprio una questione di, da un lato. Dall'altro lato c'è una nobiltà che nasce da una investitura principesca, insomma, che non è soltanto un titolo feudale, ma è anche il far parte di uno di quegli organismi che la corte ducale crea intorno a sé, no? E anzi c'è molta preoccupazione da parte dei duchi a scegliere bene e a definire e a dare rilievo nella società del loro tempo alla nobiltà che loro stessi venivano creando. Per esempio, è vietato in tutto lo Stato portare nella divisa il colore bianco e morello perché sono i colori degli Sforza. Solo quelli che hanno una patente ducale, che fra l'altro è rinnovata periodicamente, possono portare i due colori. E c'era un professore dell'Università di Pavia che per caso aveva gli stessi colori, solo e non voleva rinunciare alla sua insegna, no? Allora ha dovuto mettere la calza morella, spostarla dalla gamba sinistra alla gamba destra e ha potuto continuare a portare i bianchi. Per dire, insomma, c'è questa attenzione. E ci sono anche delle tensioni fra la vecchia nobiltà cittadina, per esempio soprattutto quella milanese che è un po' particolare, nobiltà diciamo di famiglie che risalgono a prima della signoria o a prima del ducato, e la nuova nobiltà ducale. Ci sono delle lettere molto belle, pubblicate in parte da Riccardo Fubini, in cui un vecchio nobile milanese, un Pusterla, si lamenta dicendo: ma io devo aspettare nell'anticamera del segretario del duca, sono più nobile io del segretario del duca, no? Quindi ci sono questi due tipi di nobiltà, non so se ho risposto. Poi c'è il problema dei matrimoni. Perché forse acquisto di feudi, poi anche problema di matrimoni, o no? Dunque, il duca controlla molto da vicino la politica, fa una politica matrimoniale, cioè di far sposare i suoi ufficiali a membri del patriziato. Del patriziato. Questo con molta attenzione, soprattutto Galeazzo Maria fa proprio, direi, sta molto attento. Anzi, ci sono delle lettere anche qui molto anche interessanti. Questo è molto importante. Sì, sì, è voluto in molti periodi, sì. Ecco, una fusione piena poi all'inizio non si determina, nell'andare dopo qualche decennio è difficile distinguere l'origine di questi tipi di nobiltà. Posso fare una domanda aggiuntiva a quella di nobili? Posso prima fare loro o dopo? auf die Frage, wie neuer Adel entsteht, hat der Tolini zuerst gesagt, es ist nicht leicht, Nobilis mit einem klaren und deutlichen Inhalt wiederzugeben heutzutage, weil das Wort Nobilis adelig eben noch nicht sehr streng und exklusiv gebraucht wird. Es gibt Leute, die Nobilmente leben, also einen adligen Lebensstil haben, ohne es doch zu sein. Und es gibt solche, die in den Adel geboren sind. Das ist ganz eindeutig. Für die Frage, wie man adelig werden kann, gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal innerhalb der Stadt sozusagen durch Ersitzen. Das heißt also, wenn der nötige Reichtum und schließlich auch die nötigen Ämter da sind, dann wird eine Familie im Lauf von ein, zwei, spätestens drei, vier Generationen adelig, ohne dass das durch einen bestimmten Akt anerkannt wird. Die andere Möglichkeit ist die Verleihung des Adels von oben, in diesem Fall also durch den Herzog. Und der Herzog hat sich offenbar alle Mühe gegeben, den herzoglichen Adel möglichst im, ja wie soll man sagen, konkurrenzfähig zu halten mit dem alten Adel, das heißt also gut auszusuchen und dafür zu sorgen, dass er ähnlich mit dem alten Adel war. Dass bei dem alten Adel das Bewusstsein des Besseren vorhanden war, wurde an einem Beispiel aus Mailand erzählt. Ebenso, dass also die besondere Sorgfalt des Herzogs dadurch ausgetragen, dass seine Farben nur von seinen Leuten getragen werden durften. Fräulein Fasoli hat dann noch ergänzt, und Vitolini hat das bestätigt, dass besonders wichtig ist die Frage der Heiraten, also auch des Einheiratens. Vitolini sagt, dass der Herzog für seinen Adel eine ganz strenge Heiratspolitik treibt, nach Möglichkeit mit Patriziertöchtern, und jedenfalls, dass die Folge sei, dass nach wenigen Generationen die verschiedenen Adelsschichten, also alter Adel aus der vorherzoglichen Zeit und herzoglicher Adel nicht mehr unterschieden werden kann. Si vorrei fare una domanda aggiuntiva a quella di Nobili sul diritto di nobiliare, cioè i duchi quale autorità avevano, perché dal periodo di Carlo IV di Boemia più o meno, cioè si fa cogliere vengono meglio definiti i iura riservata eliminata dell'imperatore che comprendono il diritto di poter ammobiliare, che vengono, sono poi diritti che parzialmente vengono delegati ai conti palatini, ma non tutti. Questo diritto o questa autorità del duca di annobiliarsi alle sue fonti dall'imperatore o da chi deriva o da propria autorità? No, è propria autorità, è propria autorità, cioè ci sono anche dei nobili creati nobili dall'imperatore, per esempio molti gentiluomini vanno alla corte imperiale per un'ambasceria, ne approfittano per ottenere un titolo di nobiltà e questa è nobiltà reputata, che poi fra l'altro è una moneta che ha un corso più ampio di quello che può avere una nobiltà solo milanese, cioè in corte di Roma è più importante essere nobile. Però il duca nobilita, ma non sono atti di vera e propria nobilitazione, sono nomine per esempio a gentiluomo, ci sono 20-40 gentiluomini del duca o della duchessa e da un certo punto in poi e questi gentiluomini hanno una pensione e sono chiamati abitualmente nobiles. Da un certo punto in poi si diffonde anche l'uso di nobilis per alcune alte cariche dello Stato, ma questo non so se si può considerare un uso cancelleresco oppure un riconoscimento, un'accettazione di uno stato di nobiltà. Frau Tucci fragte nach dem Recht der Nobilitierung für den Herzog, ob er das aus kaiserlicher Verleihung macht oder wie. Herr Gittolini sagt, er macht es aus eigener Autorität. Es gibt aber in Mailand auch die Leute, die etwa aus Anlass einer Gesandtschaft an den Kaiserhof sich vom Kaiser adeln lassen und deren Adel gilt also eher mehr und ist also wertvoller. Eine Nobilitierung im Sinne von Erhebung in den Adelsstand nimmt der Herzog nicht vor, sondern er nennt Gentiluomini, ja wie soll man das nennen, Kavaliere, Hofkavaliere des Herzogs, Hofkavaliere in latino camerarius. Auf lateinisch camerarius, das wäre also Kammerherr in diesem Fall. Das sind also die Kammerherren, die dann als nobiles bezeichnet werden und einige andere höhere Ämter erhalten den Adelstitel auch. Herr Monsen. Io insisterei sul problema della nobiltà. Mi sembra che mi sembra si leghi strettamente anche al disegno complessivo della relazione di Vitolini, soprattutto perché c'è nella polemica, come dire, implicita, no? Accennata rispetto alle interpretazioni di Ventura, no? Sulla vocazione aristocratica della signoria. Che a loro volta superavano, comunque hanno un progetto polemico, l'idea della signoria come forma dello Stato moderno, in cui tutti i sudditi erano uguali. Ecco, mi sembra che Fittorini qui vada, cioè, allarghi ancora più, non so se, se è vero, chiedo se è vero, allarghi ancora più la distanza tra la tematica Stato moderno e la tematica stato re, sì, formazione Stato moderno, il tema formazione Stato moderno e il tema organizzazione delle, della signoria, organizzazione del Principato e quindi anche struttura sociale del Principato e così vicenda invece complessiva dello Stato moderno. Forse nel senso di dire che questo andrebbe bene a me dire, nel senso che non c'è Stato moderno qui. E in questo senso il dire che non c'è, che non c'è una vocazione aristocratica, che anzi il Duca tende a limitare lo sforzo oligarchico della dei gruppi locali, no? È importante. Però allora a questo punto, e questo è il chiarimento che chiedo, a questo punto mi chiedo se il Duca, lo Stato regionale, reintroduce una stratificazione verticale che forse si era andata attenuando in qualche modo, chiedo, nel periodo di governo popolare, e quindi ecco, se accade questo, mi sembra, anche dal contesto della relazione, che questo vertice della società cittadina sia nel 400 un vertice molto, ancora molto frammentato, cioè ci sono i vecchi nobili, ci sono dei non nobili, ci sono, ecco, figure diverse non unificate tra di loro, mi sembra. Ecco, allora, se le cose stanno così, mi chiedo se sia il caso di utilizzare il termine aristocrazia. Cioè, questa è una oligarchia tendenziale, no? Non so, cioè un gruppo che sta che cerca di chiudersi, ma che non l'ha ancora fatto e che non ha ancora trovato, forse chiedo, nuovi criteri di legittimazione che lo unifichino. Cioè, Fittorini ha accennato il termine patriziato, a me sembra che nel 500 il termine patriziato serva a appunto a definire tutti coloro che esercitano funzioni di governo all'interno della città, indipendentemente, comunque in buona parte indipendentemente, dalle loro origini. Quindi è questo nuovo centro di governo. Ecco, mi sembra, quindi i criteri di legittimazione al governo qui sono ancora di tipo cittadino, cioè sono i cives optimo iure che hanno diritto a entrare in consiglio e così. Se le cose stanno così, ecco, forse è il caso di parlare proprio di una oligarchia piuttosto che di una aristocrazia nobiliare, no? Quindi un'oligarchia cittadinesca piuttosto che e quindi di distinguere, questo porterebbe il problema, di distinguere ancora fra 4 e 500, cioè a fine 400 ci sarebbe allora questa unificazione di questi diversi segmenti in una aristocrazia nobiliare. Non so se... Die Frage, ich versuche zu vereinfachen, geht aus von der einheitlichen Stadtadelsschicht in dem 16. Jahrhundert, dem fragenden ist farglich die führende Schicht der in den lombardischen Städten wirklich so einheitlich sein, dass es sinnvoll sei, sie als Aristocratia Cittadina zu bezeichnen, also als Stadtadel, und ob es nicht sinnvoller wäre, etwa von oligarchischen Gruppen oder Ähnlichem zu reden, wegen der verschiedenartigen Herkunft und Funktion der Abgeordneten. Sì, non so se vuole precisare la signorina Fasoli. No, semplicemente questa aristocrazia su cui lei si formalizza e dal suo punto di vista ha ragione, noi l'abbiamo scelta perché ci sembrava la parola più adatta per tradurre Staatsadel. Naturalmente aristocrazia come Staatsadel, noi lo sappiamo benissimo che in un titolo sono delle espressioni di comodo che si adattano fino a un certo punto al contenuto delle relazioni o che le relazioni si adattano fino a un certo punto al titolo generale. Questa è stata la... Sì, ma adesso se ecco. Permette... E adesso continua punto, lui. C'è sempre il rischio di banalizzare queste domande così articolate che... Questa era preliminare, nel senso, per aristocrazia, cioè diciamo un ceto di governo senza connotazioni di nobiltà, anzi proprio in antitesi a una connotazione che includesse il senso di una aristocrazia nobile, no? Quello che tu mi pare chiami oligarchia. Ecco. Sulla sostanza del problema, appunto, se ho capito bene, io sono d'accordo nel fatto che un mutamento del tipo di aristocrazia sia nel Cinquecento, nel senso che intervengono elementi nuovi, diciamo di autolegittimazione, se è questo che volevi che io dicessi, nel senso che è la stessa aristocrazia che riesce a determinarsi in termini così, attraverso dei meccanismi che controlla interamente. E a me pare che non sia casuale il fatto che questi processi che in Lombardia si chiamano di creazione dei decurionati, no? Che è un termine che gli storici tardi attribuiscono anche al 400, ma che nessuna fonte quattrocentesca, se non proprio colta, usa. I decurionati nascono nel 500 e non a caso in quale periodo? Quando manca un'autorità ducale in loco, e poi in età spagnola, cioè quando il senso di uno Stato regionale ha perso quella connotazione di una presenza continua del duca nello Stato, insomma. Allora lì si ha ancora più la sensazione che questo ceto dirigente urbano si definisca in totale autonomia. Tra l'altro le chiusure, le nomine di consigli ereditari sono fatti cinquecenteschi. Poi anche lì bisognerebbe vedere da città a città. Non so se... Die Antwort von Frau Fasoli war, dass wir ja das Wort Stadtadel, Aristokratia, Cittadina eigentlich in dem Obertitel verwendet haben, um es möglichst weit und vage verwenden zu können. Herr Ghedolini antwortet dann, dass also tatsächlich in Mailand der Stadtadel des 16. Jahrhunderts sehr viel stärker abgeschlossen, sehr viel autonomer ist als der Stadtadel, von dem er gesprochen hat. Und führt es zurück auf eine erste Zeit des Machtvakuums und dann auf die Zeit der spanischen Herrschaft. Es ist kein Herzog mehr anwesend, allenfalls also ein Statthalter. Und insoweit ist also der Ausgangspunkt der Frage völlig richtig. Nur die Terminologie, ob man Aristokratie oder Oligarchie für das im 15. Jahrhundert sagt, das ist nicht so schrecklich richtig. Fräulein Bock. Io vorrei portare molti argomenti, ma naturalmente li restringo, perché è tanto interessante la relazione di Ghedolini, ci sono molte cose di cui vorrei parlare. Per esempio, un'appendice piccolissima a questo problema della nobiltà, e vorrei sapere quanto è legato alla rifeudalizzazione delle campagne. Però di questo non lasciamo stare, non voglio parlare di questo, vorrei invece portare il discorso su uno dei temi, direi, che è fondamentale, che è quello della trasformazione della società urbana, del passaggio dai governi comunali a quelli signorili che sono segnati proprio da una trasformazione sociale nell'ambito urbano e di cui Titolini ha dato un'interpretazione e che credo sia interessante, prima di tutto laddove mette in, ha messo un discriminante relativo al fatto che le città, diciamo così, che entrano a far parte dello Stato regionale subiscono una trasformazione politica che è legata a quello che avviene nella capitale. Quindi questo è un punto abbastanza importante che viene più trascinante nella trasformazione del governo locale proprio per quello che avviene nella capitale. Allora a questo punto io credo che dobbiamo tornare un momento su un punto fondamentale che è quello che avviene, diciamo pure per intenderci, a Milano e credo proprio nell'ambito delle trasformazioni sociali, del fatto che il ceto popolare non conti più nell'ambiente politico cittadino, che credo che sia il punto centrale di queste nostre argomenti, di queste nostre discutere. Uno dei punti naturalmente. E credo anche che l'attenzione debba essere spostata non sul 300, perché è nel 300 che avvengono queste trasformazioni che modificheranno, che avranno poi conseguenze nel periodo di cui ci ha parlato Titolini. Quindi è il 300. Il 300 naturalmente mi pare che si possa, e vorrei sentire da lui se questi sono punti che possono essere anche presi in considerazione per la società lombarda, per le città lombarde di cui ha parlato. Quindi il 300, la crisi del 300 è soprattutto è una crisi che si va che va prendendo delle connotazioni chiare non solamente attraverso la peste e quindi le grande modificazione di tipo demografico, ma ci sono delle trasformazioni già prima relative alla concentrazione per esempio della proprietà, al fatto che diciamo pure i capitali urbani vengono impegnati, vengono impiegati nella campagna e anche non volevo accelerare i tempi. Va bene, ma poi c'è lei che traduce. Dicevo, naturalmente ci sono dei nuovi soggetti urbani, tutto sommato, soggetti sociali urbani che sono quelli impiegati per esempio nelle manifatture, tutta la che è una situazione della una situazione cittadina nuova del 300 che si va consolidando. Non occorre qua che ricordi il tumulto dei Ciompi, perché è un episodio che è ben conosciuto a tutti, ma lo ricordo solo per individuare l'area di cui l'argomento, il centro sociale urbano di cui cerco di parlare. Quindi questo direi che è l'affiorare di questi nuovi soggetti sociali, credo sia uno degli argomenti, uno dei fattori attraverso i quali si è trasformata la società del 300 e si è andata naturalmente configurando nelle maniere di cui ci ha parlato Titolini. Quindi un controllo degli elementi popolari degli addetti, diciamo pure alle manifatture, a quelle forme preindustriali che conosciamo. Un controllo quindi che viene anche a commisurarsi, per esempio, proprio, mi pare, vediamo se vorrei sentire conferma o non conferma, Titolini, sulla questione della politica assistenziale che viene fatta dal governo centrale, gli ospedali, la distribuzione dei grani. Si tratta di tenere sotto controllo tutta quest'ampia fascia di personale, di manodopera, che non ha altra maniera un'altra maniera e che deve naturalmente produrre, che deve continuare a produrre. Quindi mi pare che sia il fatto poi che le corporazioni, per quel tanto che ancora sopravvivono e che hanno proprio funzione, diciamo pure assistenziale, ma non nei confronti della manodopera, nei confronti degli operai, diciamo, per intenderci, quanto piuttosto in coloro che appartengono alla corporazione medesima, che sono a un livello sociale differente. Ecco, quindi è un argomento che forse può avere tempo o no. Può formulare la domanda che pone? No, la domanda che pongo era se si può verificare attraverso anche nelle città lombarde la presenza di questi soggetti sociali nuovi che emergono naturalmente e che vengono compressi proprio dalla presenza delle aristocrazie urbane, che sono quelle, perché appunto c'è bisogno del controllo, di controllarli nelle zu dem Punkt, an dem Herr Kittolini über die Veränderung der städtischen Gesellschaft gesprochen hat, wo er gesagt hat, dass ein wesentlicher Grund für die Veränderung der städtischen Gesellschaft auch die Einbeziehung der Stadt in die Landespolitik, das Zurücktreten der Wichtigkeit der innerstädtischen Verhältnisse gewesen sei, fragt Fräulein Bocchi, ob denn nicht wie in anderen Städten, etwa der Toskana oder auch der Romagna, schon im 14. Jahrhundert neue Schichten in der Stadt aufgetreten seien, Arbeiter, um es mal einfach so zu sagen, oder Lohnarbeiter, die man unter Kontrolle halten musste, deren wegen auch unter Umständen die Wohlfahrtseinrichtungen in diesem Maß, wie es dann im 15. Jahrhundert sich zeigt, eingerichtet werden musste. Und ob und in welcher Weise etwa diese Art neuer Stadtbewohner, wie man sie trotz Pest im 14. Jahrhundert schon feststellen kann, auch in der Lombardei auf die Veränderung der städtischen Gesellschaft eingewirkt hat. Sì, io sono abbastanza d'accordo su quello che tu hai detto, se hai inteso dire che una trasformazione come quella che è avvenuta tra 300 e 400 comporta dei profondi mutamenti nella, come dire, organizzazione economica e sociale della società in generale. Questo sono molto d'accordo, alcuni degli elementi che hai indicato corrispondono abbastanza per la situazione lombarda. Ecco, bisogna stare attenti, ed era questo il senso della mia accentuazione degli elementi di organizzazione politico-militare generale, sul fatto che un conto è riconoscere queste cause, diciamo, economiche nel considerare nel suo complesso l'evoluzione della società italiana, e anch'io ho cercato di fare qualche accenno parlando del mutato rapporto tra ceti urbani e contado, per esempio, ed è uno dei punti. Un altro conto è pensare che si possa esaurire il problema di questa trasformazione studiando la lotta politica di una città, come è stato fatto molto spesso, insomma, come se tutto si esaurisse nella dialettica all'interno di una città fra nobili e popolari. E siamo, credo, d'accordo sul fatto che non è possibile, come non sarebbe possibile oggi studiare, che so io, cosa succede nell'Africa meridionale, in un paese negro dell'Africa meridionale, senza tener conto che c'è il Sudafrica di lato, no? E quindi se qualcuno studiasse la stratificazione interna di un paese, è chiaro che mancano degli elementi, e questo mi pare che sia stato un po' fatto. Che poi vadano approfonditi quei punti che dicevi tu, in effetti è vero, anche se bisogna dire che purtroppo su questo le notizie sono molto scarse. Per esempio la crisi del 300, è capitato forse altre volte di parlarne, In Lombardia è molto difficile, anche per mancanza di fonti, misurare un po' esattamente che cosa abbia significato dal punto di vista demografico. Ecco, e lo stesso a maggior ragione per quello che riguarda le trasformazioni della società successive alla peste o alle carestie. Ecco, semplicemente questo, non credo che sia una risposta soddisfacente, perché si tratta di indicazioni di settori di ricerche che purtroppo non sono state ancora fatte. Wieder vorwegnehmen heißt, es ist in der Lombardei, anders als in anderen Teilen Italiens, nicht möglich, jedenfalls bisher nicht möglich gewesen, Auswirkungen der Pest zu quantifizieren und genauere Angaben demografischer Natur über Folgen der Pest zu machen. Im Übrigen hat Herr Kittolidin gesagt, dass ihm, nachdem in zahllosen Monographien über Städten die städtische, das sagt Else so, Nabelschau betrieben worden ist, sei es ihm darauf angekommen, hervorzuheben, dass gerade die sozialen Veränderungen innerhalb der Stadt nicht nur aus innerstädtischen Verhältnissen, sondern eben aus der übergeordneten politischen Lage im Herzogtum Mailand zu erklären seien. Wobei er ausdrücklich sagte, er wolle nicht leugnen, dass alles das, was Frau Bocchi in ihrer Frage angedeutet hat, natürlich mutatis mutandis auch in der Lombardei gelten mag, dass aber eben gerade quantitative Angabenquellen für konkrete Einzelheiten nicht zur Verfügung stehen, beziehungsweise bisher noch nicht ausgewertet worden sind. Frau Ceccarelli. Ich habe eine breite specifica sulla presenza di abitazioni di città soggetto. Però premetto che io non ho mai studiato il 400 e generalmente siamo abituati a vedere nelle città autonome come Pisa la presenza di una sezione in città generalmente presuppone l'uscita dell'altra stazione d'esilio, dell'altra stazione della città. E poi qual era il motivo del contendere tra abitazioni in una città soggetto? Frau Ceccarelli fragt nach den Parteien, den innerstädtischen Fraktionen in einer Stadt, die nicht mehr autonom ist. Was soll das? Ich sage es etwas salopper als Sie. Was wollen die eigentlich noch in einer Stadt, die keine eigene Herrschaft hat? Und geschieht etwa das, was in den autonomen Städten geschieht, dass von zwei Parteien die überlegene, die unterlegene ausweist, das heißt ins Exil schickt oder nicht. Also gilt das auch in der mediatisierten Stadt. Sì, il caso della espulsione di una fazione non si verifica se non una volta soltanto, ma è un caso molto eccezionale, cioè nel 1483, dopo la rivolta di Pietro Maria Rossi, un grande feudatario a Parma e signore anche molto influente in città, che è capo di una squadra che agisce nel consiglio cittadino della città, la rivolta è soffocata. I rossiani, cioè la squadra dei Rossi, il partito dei Rossi, è espulso dalla città. E questo ha in effetti un riflesso sul consiglio. Il consiglio di Parma era di 100 membri, e siccome sono espulsi i rossiani, che costituiscono un quarto del consiglio, il consiglio di Parma per 15 anni resta di 75 membri, cioè i rossiani sono fuori e non possono nominare nessuno. E questo è un po' il segno di quanto gravemente agissero ancora nel 400 queste lotte di fazione a Parma, che è un caso però un po' particolare. Il motivo del contendere, e in effetti è la domanda centrale, proprio per togliere quel senso di uno scontro politico senza contenuto, come invece ha immediatamente un contenuto, un contrasto, diciamo, di classe o di ceti, no? Ma la risposta è molto mediata, perché si potrebbe rispondere che lottano per avere maggiore autorità in consiglio, la nomina degli anziani, una pariteticità effettiva, gli aggiunti che siano sempre quelli. Ma questa forse è una tautologia. Allora, quali sono i poteri del consiglio? Questo è il problema. E in effetti lo scontro nasce dalle questioni che si presentano nel governo della città. Per esempio il rifacimento di un estimo. Estimo è il criterio, il ruolo per la tassazione dei cittadini. Oppure i criteri di riscossione di vecchi debiti della comunità. Ci sono alcuni magari grandi cittadini che hanno fatto dei prestiti al Duca e non sono stati rimborsati, o alla comunità. Come si devono pagare questi prestiti? Allora, ovviamente, chi è più interessato prende per un certo modo di pagamento, non so, l'imposizione di una nuova tassa, mettiamo sulla mercanzia, e allora ci sono altri che dicono non questa tassa, ma un altro tipo di tassazione. Oppure un altro problema che si sente in Lombardia nel 400 è quella della costruzione di una rete idrica, dei canali nel territorio. Naturalmente la costruzione di un canale, no, è importante, perché certe terre sono favorite, certe, e su questo si litiga moltissimo. Ecco, sono contrasti di interessi, può capitare che siano contrasti anche che coinvolgono interessi di ceti sociali diversi. La canalizzazione politica di questi interessi finisce per essere la squadra, insomma. Non so se... Es waren zwei Fragen, ob also die städtischen Parteien ihre Gegner nach dem Sieg austreiben oder nicht. Diese Frage hat Herr Kittolini beantwortet, dass es in dem 15. Jahrhundert in Lombardei seines Wissens nur einmal vorgekommen ist, in Parma 1483, wo die Anhänger des sehr mächtigen und bekämpften Pietro Maria Rossi aus der Stadt vertrieben werden. Interessant dabei, und das ist mir wichtig, diese Squadra Rossiana hat 25 Plätze im Consiglio Maggiore zu besetzen. Und diese 25 Plätze bleiben 15 Jahre lang frei. Das heißt also, sie werden nicht mit anderen besetzt, sie können aber auch nicht von Rossi und seinen Anhängern besetzt werden, sie bleiben frei. Wichtiger die erste Frage, das war die Frage nach der, worum streiten sich eigentlich diese städtischen Parteien, wenn keine Stadtherrschaft mehr vorhanden ist? Um Einfluss im Rat, sagt Herr Kittolini, und zwar wahrscheinlich vor allen Dingen im engeren Rat. Und er hat dann gesagt, warum? Der Rat hat über bestimmte Dinge zu entscheiden, etwa über die Modalitäten einer neuen Steuerveranlagung, Estimo, oder über die Art und Weise, wie Schulden getilgt werden oder bezahlt werden sollen, oder ein anderes, was den Contador angeht, also die Lombardei ist durchzogen von einem ganzen Netz von Kanälen, die ständig repariert, erneuert oder neu verlegt werden. Und das sind also ganz handfeste Interessen aller verschiedenen Gruppen von Stadtbewohnern eventuell mitbeteiligt, das heißt bei Steuern, bei Schulden und bei Kanälen, um es kurz auszudrücken. Und die Interessengemeinschaften finden sich, oder diese Interessen finden ihre Vertretung innerhalb der Squadra, also der Parteien, und die Parteien eben kämpfen dann darum, sich gegenseitig durchzusetzen. Ich habe im Augenblick keine Wortmeldung. Wer wünscht weiter? Martin. Lei l'ha già detto nel corso della relazione, poi ha ribadito rispondendo alla Bocchi, come non sia sufficiente studiare i tumulti per cogliere, per capire il contrasto tra centri popolari e centri nobiliari, aristocratici, per capire il rapporto. Però, quando dice che all'esclusione, più o meno, all'esclusione del popolo dal potere politico corrisponde la messa in opera di un organismo assistenziale e di azione assistenziale, essenzialmente tre, si è parlato di banchi di pegno, di monte di pegno, di ospedali e di cooperazione per la calmierazione del prezzo per pane. E da queste azioni del organismo assistenziale si ha una sorta di compensazione in termini di servizi, in termini di assistenza, di sicurezza, hanno perso il potere politico popolare. Perfettamente d'accordo che sia queste azioni a sorgere di queste avvenite vanno parecchio diluite nel tempo, perfettamente d'accordo che lo stesso sorgere di questi nuovi soggetti politici non avviene d'un lampo. Per il mio rimane il problema, nel caso specifico del Vallo, si può dire che il sorgere di queste o azioni di controllo, aspettiamo la cancellazione, o nascere di banchi di legno di ospedale sia conseguente a dei tumulti, rivolte, morti, insoddisfazioni popolari oppure no? Die Frage bezieht sich auf die Zusammenfassung der Spitäler, Kontrolle des Getreidepreises, alles, was ich unter Wohlfahrtspolitik zusammenzufassen versucht habe, und möchte wissen, ob diese wohlfahrtspolitischen Maßnahmen zurückgehen auf kriegerische oder Unruhen, Aufstände, die damit beruhigt werden sollten, oder ob das nicht der Fall ist. Io non so se ho capito bene, ma la risposta è certamente sì, nel senso che c'è un indubbio rapporto fra una possibilità di esplosione di tumulti o di scandali e questi meccanismi che vengono messi in opera. Di fatto alcuni tumulti capitano, no? Quando non si è pronti a intervenire, eccetera. Direi che però è abbastanza raro, perché in effetti questi meccanismi si ha l'impressione che funzionino. E direi che anzi c'è da parte degli ufficiali ducali, l'ho già detto anche prima, un'attenzione proprio estrema a controllare questa situazione. La paura principale dell'ufficiale, il rappresentante del duca in una città, il podestà, eccetera, è proprio che si diano motivi di scandalo, e dove motivi di scandalo significa occasioni di tumulto, no? Questo è proprio l'imperativo del buon ufficiale sforzesco, che non capitino occasioni di tumulto, che del resto è abbastanza sintomatico in generale con l'evoluzione dello Stato. E io non so appunto se si può stabilire un nesso preciso fra il sorgere di questi organismi di assistenza e il fatto che non ci sono tumulti, ma a me pare che l'attenzione continuamente rivolta dagli uffici è in questa direzione, e la cosa grosso modo direi che funziona. Non so se era questa. Antwort ist, es hat zwar einige Tumulte gegeben, etwa wegen Getreidepreis oder so, aber eher müsste man sagen, ein Zusammenhang besteht zwischen der Angst vor Tumulten und diesen Wohlfahrtsmaßnahmen. Die herzoglichen Beamten, die also in der Stadt den Herzog vertreten, ob mit dem Namen Ufficiale, also Beamter oder Podestà oder wie immer, haben praktisch den Auftrag zu verhindern, dass irgendein Anlass für Tumulte, ein Skandal oder anderes entsteht, damit also Ruhe bleibt. Und insoweit kann man sagen, dass viele dieser Maßnahmen tatsächlich nicht durch Tumulte, aber durch die Angst vor Tumulten oder das Bemühen, solche zu vermeiden, verursacht worden sind. Andere Fragen? Herr Schulz. Ich bitte die Frage zu streichen, wenn sie schon beantwortet sein sollte und ich es nur nicht zureichend verstanden habe. Solo io parlo sveglio, però. Langsam. Ja. Ja, ja. Langsam. Ganz kurz. In welcher Weise ist die städtische Führungsschicht in den lombardischen Städten, sei es politisch oder sei es gesellschaftlich, organisiert gewesen? Welche Form von Gruppenbildung hat es gegeben? Nicht nur Parteiungen. Das ist die eine Frage. Die andere Frage ist, nach dem Wahlverfahren und dem Präsentationsrecht, dem Vorschlagsrecht für den engeren und weiteren Rat. Sono due domande. La prima, in che misura i citi aristocratici nelle città lombarde sono state organizzate e si intende a organizzazioni e formazioni di gruppo che vadano scendono da quelle formazioni di squadre? Cioè ci sono altre formazioni di gruppi? Non solo nobiliari. I ceti aristocratici, ha detto, non ha detto nobiliari, cioè i ceti eminenti e i cari. La seconda domanda verte sul modus in cui le elezioni per il consiglio si verificano, cioè come praticamente la procedura. Qual è la procedura delle elezioni per il Consiglio e la possibilità di fare delle proposte per i candidati dati da eleggere? Per la prima domanda, organizzazioni di gruppi dirigenti accanto alle squadre, che fra l'altro ci sono in quasi tutte le città, ma in forme abbastanza diverse. Per esempio a Como sono due, quindi io ho fatto degli esempi relativi a due città dove le squadre sono più forti, non tutto quello che è stato detto per queste città è valido per il resto. Comunque, al di fuori delle squadre, io non conoscerei altre forme di organizzazione di gruppi aristocratici, se è questo che lei chiedeva. Ci sono per esempio ancora le corporazioni, però hanno un carattere, non hanno più possibilità di azione politica. Nel corso del 300 una serie di interventi del duca, del principe, ha per esempio stabilito che l'elezione dei maestri della corporazione avvenga in un modo che il signore stesso o i suoi delegati controllano, mentre nel fine 200, inizi 300, per esempio a Cremona, alcune corporazioni avevano diritto di eleggere dei membri di magistrature cittadine, questo diritto viene tolto. Cioè esistono delle organizzazioni accanto ai consigli, però non hanno più capacità di azione politica. Non so però se lei chiedeva questo oppure aveva in mente altre forme possibili. Quindi il professor Hafenkamp ha dato un altro suggerimento, non vorrei che fosse quello che voleva dire anche Schulz, cioè delle organizzazioni diciamo più culturali, dei raggruppamenti per insieme, come sembra che erano delle città tedesche o altre. No, direi di no. Ci sono, possono diventare un centro di aggregazione sociale alcune confraternite. Ecco, che però che ecco, hanno una motivazione religiosa, può caricarsi anche di motivazioni così politico-sociali, però non emergono mai come grossi nuclei organizzati, insomma, nella società. Ci sono semmai le parentele, cioè dei clan familiari, diciamo così, che però molto spesso sono riassorbiti nelle squadre, cioè 3-4 grossi clan al completo entrano, fanno parte di una squadra. Si chiamano casane, per esempio, a Tortona si chiamano casane, che poi ha altri significati in area piemontese, comunque per dire con nomi diversi. Questo è un punto. Secondo punto, la procedura dei consigli. Non so se sarò chiaro, perché in realtà era una procedura difficile. Faccio un esempio semplice. Quattro cittadini da un libro più grande che elenca i coloro che hanno il diritto di cittadinanza, ma questo libro può anche non esserci, comunque un requisito è il diritto di cittadinanza, scelgono un certo numero di nomi. Ecco, questi nomi sono nella maggior parte dei casi consiglio generale, cioè c'è una designazione diretta. Per la scelta degli anziani, da questi mettiamo nomi, ogni due mesi si estraggono sei bussoli, sei cedole, foglietti, sì, dipende da tanti, in cui ci sono i nomi di sei persone. Quando si vuole garantire anche per gli anziani una rappresentanza di maiores, mediocres e minores, non si fanno estrazioni di sei persone, ma si fanno estrazioni in tre bussoli, cassette distinte, in cui primo maiores, il secondo, il primo raccoglie tutti i nomi dei maiores, il secondo dei minores, il terzo dei mediocres. Allora si estraggono due bussoli di qui, due di qui e due di qui. Non so se era questo. Ancora chi può disegnare l'elezione del doge? Erano i quattro cittadini che... Sempre i quattro cittadini. Per fortuna non si precisa come per l'elezione del doge, no? Außerhalb der squadre gibt es für den Stadtadel nicht, also nicht etwa wie die Stubengesellschaften, Frau Tucci noch extra zurückgefragt, wie die Stubengesellschaften, eventuell geistliche Bruderschaften, aber die Bruderschaften haben eben doch immer einen anderen Zweck und sind also nicht eigentlich also der Ort für solche Dinge. Am ehesten könnte man sagen, dass ein ganzer Familienclan eine solche Organisation bildet, aber diese Familien, die Großfamilien, treten eben doch den Squadra bei und gehören dann zu so einer Squadra. Organisiert in der Stadt sind noch die Zünfte, aber ohne irgendwelche politischen Einwirkungsmöglichkeiten. Sie haben also verloren, etwa eine Geschichte, die sie im 13. Jahrhundert, Anfang des 14. Jahrhunderts noch machen konnten, nämlich die Wahl städtischer Richter und die Wahl der Zunftmeister ist auch nicht mehr frei, sondern die Zunftmeisterwahl wird kontrolliert vom Stadtherrn, also in diesem Fall vom Beamten des Herzogs. Für das Prozedere der Wahl, also die Wahlmodalität, hat Herr Kittolini gesagt, er wolle einen einfachen Fall vorführen. Es gäbe also natürlich von Stadt zu Stadt verschiedene, aber der einfache Fall sei auch schon deutlich genug. Vier Bürger. Scusi, aggiungo questo, ecco, questi quattro cittadini, come vengono scelti? Ecco, a Como sono nominati dagli anziani. In altri casi sono gli anziani stessi che hanno la funzione di questi quattro cittadini. Also vier von den Anzianen, also vom engeren Rat, ernannte Bürger oder der engere Rat selbst, wählt aus der Zahl der Bürger, der vollberechtigten Bürger, die nötige Zahl von Namen aus für den Consiglio Generale. Und aus diesen Namen werden jeden Monat sechs Namen für den engeren Rat gezogen. Und zwar praktisch also gelost. Die Bussoli sind Kügelchen, die man aus einem Kasten nimmt. Wenn Wert darauf gelegt wird, dass die drei wichtigen Schichten, die mittleren, die oberen und die untersten, gleichmäßig berücksichtigt sind, dann zieht man die Kugeln aus drei Kästen, wo in jedem Kasten eben bloß Leute von der einen Sorte drin sind, zwei und zwei und zwei. Und das also etwa ist das Verfahren, was in den Städten für diese Ratswahlen benutzt wird. Also ziemlich willkürlich. Domandare a Kittolini se in questo questi processi di trasformazione della società lombarda ha notato una concomitante diversificazione dal punto di vista fiscale, cioè si accompagna alla trasformazione che avviene anche una maniera diversa, non solamente tecnicamente, di fare l'estimo e di dividere gli oneri, ma anche proprio dei soggetti che sono, diciamo, colpiti dalla fiscalità. In alcune città emiliane che io conosco meglio, si vede come nel 400, per esempio, adesso sto pensando a Ferrara, sto pensando a Bologna, dove esiste una legislazione specifica relativamente a questo punto, si vede come l'onere dell'imposta diretta, che naturalmente è una parte degli oneri fiscali che ricadono sui sudditi, come l'imposta diretta vada a concentrarsi solo ed esclusivamente su coloro che possiedono beni immobili, ma non sono cittadini, sono residenti nelle campagne. Cioè è un processo che rispecchia quello che avviene all'interno della società cittadina. Mi domandavo se vorrei sapere da Titolini se questo si può notare anche nelle città lombarde, naturalmente considerando che c'è sempre una diversificazione tra quella che è la capitale e quelle che sono le città che fanno parte del Ducato, le quali a loro volta, non per offenderle, ma costituiscono una specie, diciamo così, di contado nei confronti della capitale. Frage, ob im Zusammenhang mit den Veränderungen der sozialen Verhältnisse in den Städten auch Veränderungen im Steuerwesen eingetreten seien. Frau Bocchi sagt ausdrücklich, sie meine nicht etwa nur Veränderungen des Estimo oder der Art und Weise der Veranlagung, sondern für Ferrara, 14. Jahrhundert, hat sie zitiert, dass dort etwa für das 15. Jahrhundert, dass dort eben die direkten Steuern schließlich eigentlich nur noch von Grundbesitzern gezahlt worden seien, aber auch von Grundbesitzern, die im Contado wohnen und nicht nur von den Städten, also bürgerlichen Grundbesitzern. Die Frage also, ob so etwas geschehen sei, und sie betont dabei noch einmal, dass man natürlich in der Lombardei unterscheiden müsse zwischen der Hauptstadt und den anderen Städten. Die übrigen Städte des Herzogtums seien so beinahe wie eine Art Contado für die Hauptstadt. Und möglicherweise sei es also in beiden Sorten der Städte verschieden gewesen. Su questo ultimo punto, per certe cose è vero, ma è molto meno vero che a Firenze o a Venezia, insomma. E bisognerebbe spiegarlo, ma è a margine, quindi non. Cioè Venezia veramente forse tende ad avvertire, io non lo so, ma da quello che si legge Ventura anche nel Cinquecento, le relazioni Tagliaferri, veramente la terraferma come una specie di grande città e contado, come un grande contado. E lo stesso Firenze, dove c'è anche proprio una distinzione terminologica fra contado, che è il vecchio contado della città di Firenze, e distretto, che costituisce appunto città e contado dei territori intorno. A Milano un po' è così, soprattutto dal punto di vista annonario, no? Le esigenze annonarie di Milano assolutamente, e anche fiscale da certi punti di vista, però non nei termini. Comunque, tornando alla domanda principale, cioè evoluzione nei criteri di tassazione, manca purtroppo il punto di partenza, perché per le città lombarde del 200 si sa molto poco, insomma, e proprio anche per mancanza di fonti e perché quelle poche fonti che ci sono state poco studiate. Io direi che per quello che si può capire nel 400 c'è quello che dici tu, la tendenza a far sì che le aristocrazie urbane non paghino imposte patrimoniali dirette. Ci sono alcune città in cui per molti decenni si ottiene che non vengano imposti, non siano fatti degli estimi, per esempio. Però direi può capitare che ci siano anche imposte dirette. Certamente il grosso del gettito di un fisco urbano è dato dai dazi, insomma, dalle imposte indirette. Ecco questo. E direi anche questo, una grande valvola di sfogo, nel senso un campo di imposizione di imposte, è nel 400 il contado, insomma, lì veramente per esempio il duca ha bisogno di soldi, occorrono 10.000 fiorini, chiede a una città che ha molto potere in questo, no? Come si devono esigere, no? Magari il duca consiglia, imponiamo un prestito forzoso, no? Che pure erano graditi perché consentivano speculazioni, oppure un'addizione sui dazi. Ecco, il più delle volte la città riesce ad ottenere che sia invece trasformato questo in un'addizione sulle imposte dirette che pagano gli abitanti del contado. Il sale è la tassa dei cavalli, qui non si può scendere nei particolari. Cioè il contado è una zona in cui... Una mucca da mungere. Ah sì, è una cosa incredibile, nel senso... Ecco sì, direi... Hauptfrage ist schwer zu beantworten, weil für die lombardischen Städte im 13. und 14. Jahrhundert die Quellen für Steuerwesen gering sind, beziehungsweise soweit vorhanden kaum ausgewertet sind, sodass man also einen klaren Vergleich mit dem Zustand des 15. Jahrhunderts nicht anstellen kann. Dass gewisse Veränderungen im Steuersystem eingetreten sind, ist sicher, aber eben, man kann sie nicht genau fassen. Herr Ketolini hat ein paar Beispiele dann gegeben von etwa der Auflage neuer Steuern, also für den Fall, dass der Herzog Geld brauchte, dass eben etwa eine Zwangsanleihe, die ganz beliebt war, auflegte, beliebt, weil man damit spekulieren konnte, dass er etwa eine Vermehrung der direkten Steuern verlangte, wo die Städte dann versucht haben, das als Vermehrung der indirekten Steuern zu erreichen, weil indirekte Steuern vor allen Dingen auch vom Contado bezahlt werden und nicht von der Stadt selber. Also im Übrigen war noch das im Schluss von der Frage von Vollenbock angeklungene Problem der verschiedenartigen Rolle von Hauptstadt und übrigen Städten des Landes, also des Herzogtums. Da sagt der Ketolini, Mailand sei weniger Hauptstadt in diesem Sinn gewesen als etwa Venedig oder Florenz, die wirklich für die Städte in ihrem Hinterland, also im Distretto, so Florenz, oder in der Terraferma, so Venedig, eine Art, die aus diesen Städten eine Art Contado gemacht haben. In Mailand sei das Vordringliche, die Getreidepolitik, also die Getreideversorgung der Stadt, sonst im Übrigen sei ein solches Überwiegen der Hauptstadt über die anderen Städte nicht festzustellen. Se diceva Machiavelli, nessun dominio più fastidioso di quello di una città su un'altra città, no? Nel senso che forse anche qui la presenza di un duca ha una funzione equilibratrice, non saprei dire. Die Herrschaft einer Stadt über eine Stadt ist natürlich komplizierter, als wenn der Herzog eine Stadt beherrscht, da sei also auch der Herzog in der Lage, das etwas gleichgewichtiger und ausgewogener zu machen. Sì. Sì, io volevo domandare una cosa che riguarda la penetrazione più intensa delle città nel contado, proprio questo periodo in cui le città all'interno delle città perdono un po' di importanza. E questo è il periodo in cui dall'altra parte il duca e tutto il seguito ducale rivendicherà certi diritti che prima venivano liberamente esercitati dai cittadini. Penso che quei diritti di caccia, per esempio, nel contatto delle città. Il diritto di caccia è libero, la caccia è libera come nel periodo comunale, oppure ci sono delle delimitazioni adesso per le rivendicazioni da parte del Duca e del suo seguito? Von Tucci fragt, ob durch die Einbeziehung des Contado in das Herzogtum bestimmte Rechte, die früher, sagen wir einfach, Herrenrechte, die vorher der Gemeinde gehört haben, dem Kommune gehört haben, nun etwa dem Herzog vorbehalten worden seien. Sie hat als Beispiel das Jagdrecht. Credo che il problema sia diverso in Italia e fuori d'Italia, perché in Italia il contado ha molti pochi posti, soprattutto in Lombardia, dove il duca abbia piacere di cacciare, no? Cioè è un contado molto coltivato, no? E su questo non ci sono, sulle colture il duca non può rivendicare diritti di caccia, sarebbe troppo impopolare. Ci sono delle zone che il duca si riserva come luogo di caccia e spesso sono bandite proprio materialmente, per esempio il parco di Pavia, oppure i boschi di Cusago, sono due località. Quello proprio perché mi sembra di aver visto degli statuti di Pavia con aggiunte da questo periodo in cui si delimitano i diritti. Esatto, questo è un caso in particolare. E poi c'erano altre zone in cui si poteva cacciare e che ogni tanto il duca bandiva. Ed era una cosa che faceva arrabbiare molto i cittadini, nel senso che si sentivano lesi nelle loro prerogative. E allora ammazzavano i cani del duca, per esempio. Però non diventa mai un grosso motivo di scontro. Forse c'è anche un altro aspetto che non so quanto sia vero se non si tratta di caccia. No, è semplicemente sì, è di caccia, no, è questione di caccia. Cioè, nel senso che in questo momento comincia ad esserci qualche difficoltà di individuazione tra il pubblico e il privato, nel senso che qualche volta il territorio pubblico, e anche quindi da questo punto di vista, proprio perché è tutto così gestito dalla famiglia signorile, io non so se c'è qualche, perlomeno in certi posti si riscontra l'incapacità di distinguere quello che è proprietà privata del duca, dove evidentemente può andare a cacciare senza problemi di bandita, e quella che è la proprietà dello Stato, quello che è demanio, ecco, in un certo senso. Beh, il diritto di caccia si esercita anche su terreni privati, Certo, ma la quella è ma anche i boschi possono essere privati, solo alcune località sono proprio bandite. Hauptantwort auf die Frage war, das Jagdrecht spielt keine große Rolle, denn die meisten Contadi sind so weit durchkultiviert, dass der Herzog da gar nicht zu jagen wüsste oder zu jagen hätte. Es gibt einige Ausnahmen. Eins habe ich mir aufgeschrieben, das ist der Park von Pavia, der aber dann praktisch gleich gesperrt wird für alle übrigen. Und Herr Kittolini sagt, an anderen Stellen sei dann von Fall zu Fall, wenn der, also in Wäldern etwa, die nicht übermäßig zahlreich sind, sei von Fall zu Fall etwa gesperrt worden, zum großen Entsetzen der Bürger, die sich dadurch in ihren Rechten beeinträchtigt gefühlt hätten. Von Bocchi hat dann hinzugefügt, dass die Frage ja auch verknüpft sein könnte mit der Schwierigkeit in einem solchen Herzogtum wie dem der Visconti und der Sforza, zu unterscheiden zwischen dem Privatbesitz der herzoglichen Familie und dem Besitz des Herzogtums und dem Besitz der übrigen Leute, die in dem Herzogtum sind. Wenn man also sagt, es wird auch privates, also Privatbesitz gesperrt für die Jagd, dann ist die Frage, ob nicht zwischen dem Herzog und dem Privateigentümer gestritten werden kann, wer hat denn hier eigentlich also das Recht zu sperren oder nicht zu sperren. Das aber nur in Ergänzung. Vielleicht zwei Fragen. Das Herzogtum Mailand ist ja ursprünglich entstanden von Mailand aus, wie konnte die Schlechtgesellschaft aufrichten konnte, aufgrund der unterschiedlichen Entwicklungen, zum Teil durch Bündnisse mit anderen Städten, freiwillige Unterstellungen, aber auch Eroberung. Frage, wie weit liefen die ungleichen Rechtsverhältnisse? Vielzahl von Städten, zu einem gleichgestellten, juristisch gleichgestellten Territorium zu ergeben. Vielleicht eine zweite kleine Frage, die Parteien nicht betreffen. Die Parteien des 13. Jahrhunderts zeigen ja in ihren erbitterten Kämpfen eine Flucht nach ausschließlicher Herrschaft in der Stadt. Hängt diese Möglichkeit zur Koexistenz der Parteien mit einem Wandel der Parteiideologie zusammen, mit einer Reduktion der Thematik der Partei viele feststellbar, oder hängt es auch zusammen mit einem Wandel, mit einer Fragmentierung oder möglicherweise Säkularisierung des Stadtbegriffes, des Stadtideals zusammen? Man hat ja die Stadt im 12. 13. Jahrhundert als Corpus Mysticum bezeichnet, wo es nur eine richtige Lösung geben kann. Gibt es da einen Wandel? Due domande. La prima, il Ducato di Milano ha preso gli sviluppi dalla città di Milano, le altre città sono state soggettate sotto titoli diversi. Se questa differenziazione dell'acquisizione e della sottomissione delle altre città si fa apparire anche in seguito, o se queste parzialità nel modo di sottometterle si fanno, spariscono completamente in seguito. Poi la seconda domanda riguarda le squadre. Una volta i partiti all'interno delle città rivendicavano un potere esclusivo. Adesso la coesistenza di più squadre che coabitano nella città mostrano una posizione diversa nelle ideologie di questi partiti. Credo che questo fosse in sostanza, no, la seconda domanda. Non ho capito l'accenno al corpus mysticum, non ho capito questo accenno. Ja, wenn Sie Ihre die zweite Hälfte Ihrer zweiten Frage bitte nochmal wiederholen. Ob der städtische Denken, also Korps Mysticum verliert, ob die Parteiideologie sich fragmentiert oder gegebenenfalls auch säkularisiert. Dass die Streitigkeiten an Erbitterung verlieren. Ha l'impressione che per la diminuzione delle tensioni partitiche possa essere responsabile anche una specie di secolarizzazione del mito della città. Verstehen Sie, wenn ich Mythos und nicht Mystik sage, nicht? Aber cioè che forse i contrasti intraurbani sono meno forti nel momento in cui il patriottismo è meno trascendente di anni prima, secoli prima. Ecco, su questa seconda domanda io non saprei rispondere bene, non so neanche bene se... Se ho capito esattamente, e cioè io dico solo due cose. C'è una forte pressione del governo centrale, cioè del duca, la signoria e poi il ducato, alla pacificazione, no? E per esempio le famiglie esiliate da una fazione nell'età comunale con l'avvento della signoria ritornano in città. Il duca vuole che anche i suoi nemici del suo partito, no? I Visconti sono spesso schierati in posizioni ghibelline. Il duca vuole che i Guelfi ritornino in città, no? Se i Guelfi di Alessandria preferiscono il Marchese di Monferrato, i ghibellini di Alessandria preferiscono il Marchese di Monferrato, e alcuni lo consigliano di esiliarne alcuni, lui vuole che invece stiano lì. No, questa è una politica, del resto comprensibilissima. Questo naturalmente porta a una coesistenza all'interno delle città. Patriottismo è così, io non ho mai studiato direttamente l'ideologia che sta dietro a questi partiti, perciò preferirei non rispondere, non sarei in grado. Per quello che riguarda il primo punto, se le condizioni di sottomissione originarie delle varie città restano immutate oppure si arriva a una parificazione, si può dire che resta molto a lungo una differenziazione di territori. Il duca, cioè la signoria del duca, è una signoria del signore, è una signoria personale. Signore di Milano, signore di Cremona, signore di... Per cui certi editti valgono a Parma, ma non a Piacenza, e così via. Questo corrisponde a uno stato giuridico che può essere diverso ed è in genere determinato da un elemento molto importante che io vorrei studiare proprio in questo periodo, e sono i patti di dedizione, cioè gli accordi fra una città e il principe, accordi attraverso i quali si definiscono dei rapporti fra la città e il principe. C'è una tendenza alla unificazione delle condizioni di dipendenza delle varie città, però ci possono essere delle differenze che sono sanciti da questi patti. E secondo me è un punto abbastanza interessante, perché è la prima volta nella storia italiana che si crea una situazione analoga allo Stato per ceti in Germania, allo Ständestaat, insomma, nel senso che molte forme di organizzazione politica si trovano a signori feudali, città, borghi, vallate della montagna, si trovano a dipendere da un'autorità unica, e questo crea forme di organizzazione che non sono le diete nei parlamenti e neanche istituti di questo tipo, però crea una predisposizione istituzionale a un regime pattizio. Non so se... Anche divide ed impera. Sì, poi anche queste differenze. Comunque è un tema secondo me molto importante. Si può rispondere genericamente che c'è una tendenza all'unificazione, ogni non solo città ma anche feudatario oppure singolo villaggio può avere un patto concordato con lui. Um damit also gleich anzufangen, das Herzogtum hat eine ausgesprochene Tendenz zur institutionellen Vereinheitlichung, ist aber weit davon entfernt. Weniger die historischen Gründe, das heißt, wann wer einmal freiwillig oder unterworfen beigetreten ist, sondern das jeweils geltende Rechtsverhältnis zwischen dem Herzog und einzelnen Teilen seines Landes ist maßgebend. Es gibt die Übergabeverträge, das heißt Verträge, in denen eine Stadt dem Herzog das Amt des Stadtherrn, des Signore, übergibt. In denen können jeweils verschiedene Bedingungen stehen. Dementsprechend können also verschiedene Regelungen für die eine und als für die andere Regelungen für die eine und andere für die andere Stadt gelten. Etwa ein Dekret, was für Cremona vom Herrn von Cremona ergangen ist, muss nicht auch für Lodi oder für Parma stimmen. Der Herzog ist Herr über eine Vielfalt von politischen Gebilden, das heißt also von Dörfern, Lehnsfürsten oder Lehnsleuten, Städten und allem, was man brauchen kann. Herr Titolini sagt, ihr seid zum ersten Mal in Italien etwas mit einem deutschen Ständestaat zu vergleichen. Aber ein Parlament, eine Ständevertretung gibt es nicht, sondern noch ist also alles im Einzelbeziehung zum Herrn geregelt, vertraglich geregelt. Das andere war die Frage des inneren Friedens der Städte, ob und welchen Einfluss der Herzog darauf nimmt und ob die Ideologie eine Rolle spielt. Auf die Ideologiefrage möchte Herr Chetolini nicht antworten, weil er darüber nicht gearbeitet hat. Ich muss gestehen, ich könnte es auch nicht, weil ich auch nicht darüber gearbeitet habe. Aber in einer Hinsicht ist ganz sicher die herzogliche Herrschaft von einer deutlichen Wirkung auf den inneren Frieden und die Verringerung der Spannung in der Stadt. Der Herzog legt Wert darauf, dass alle Verwandten zurückkommen in dem Augenblick, wo er die Herrschaft einer Stadt übernimmt. Natürlich legt er Wert darauf, denn jeder Bürger, der da ist, ist was wert, er zahlt Steuern etc. Und er zwingt praktisch zur Koexistenz die bisher verfeindeten Leute. Und hier ist meiner Ansicht nach der wichtige Punkt, dass eben der Friede wird erzwungen von der Obrigkeit, von der Herrschaft. Und dadurch entsteht also tatsächlich in dem Sinne Ihrer Frage eine Vermehrung des Friedens und ein Ausgleich. Herr Haferkamp? Na, nur wenn es erlaubt ist. Es ist, glaube ich, auf meiner Uhr ist 10 vor 1. Dann würde ich vorschlagen, dass wir Schluss machen. Also, wenn Sie mir meinen, dass man noch eine kurze Frage stellen kann, die sich unmittelbar daran anschließt. Und zwar, gibt es irgendwelche bestimmteren Aussagemöglichkeiten über den Umfang der herzoglichen Bürokratie in bestimmten Städten? Und gibt es also Tendenzen des herzoglichen Hofes in diese Bürokratie, Fremde sozusagen einfließen zu lassen in die Stadt? Also nicht diese Bürokratie nicht auf Bürgern aufzubauen, sondern auf Fremde. Se ci sono delle possibilità di cogliere delle informazioni sulla burocrazia ducale in determinate città e se ci sono delle tendenze di mettere degli elementi estranei, cioè estranei alla singola città, della burocrazia della rispettiva città. Sì. Ci sono delle ottime notizie sulla burocrazia milanese e forse il settore che si può studiare meglio, perché esiste il carteggio, la corrispondenza fra gli ufficiali del Duca nelle varie città e la cancelleria ducale. È un carteggio molto incompleto, però è molto ricco, nel senso non si può trovare tutto, ma il senso dell'organizzazione burocratica e del significato di cosa è un ufficiale. È uno studio molto bello, del resto già Chabot aveva capito che era una cosa, e i suoi studi sul Cinquecento nascono ovviamente anche dalla conoscenza proprio di queste origini sforzesche che del resto lui ha trattato. E questo è un grosso tema. Secondo punto, di regola l'ufficiale che va in una città non è di quella città. È obbligatorio che sia di un'altra città e c'è un gioco continuo, anzi molto spesso il Duca non vorrebbe che un ufficiale si fermasse troppo a lungo in quella città, la regola è 2 anni, certe volte diventa 3 anni, 4 anni, però sono casi eccezionali. E se un ufficiale vuole ritornare in una città, in genere il Duca non permette, insomma, anche se il consiglio cittadino si dichiara disposto a richiamarlo. E questo per evitare ovviamente delle collusioni, degli intrecci che poi c'erano lo stesso, ma così sono meno più controllabili. Es gibt reiche Quellen für Mailand. Weil erhalten ist, wenn auch mit Lücken, der Briefwechsel oder die Korrespondenzen zwischen den städtischen Offizialen, das heißt also den herzoglichen Beamten, die in der Stadt den Herzog vertreten, und der herzoglichen Kanzlei. Sodass da also über die Art und Weise, Zusammensetzung etc. man viel entnehmen kann. Diese Offizialen sind nie aus der Stadt, in der sie das Amt ausüben. Und sollen auch nicht länger als 2 Jahre bleiben, allenfalls 4. Selbst wenn die Stadt den Betreffenden wiederhaben möchte, ist der Herzog in der Regel dagegen, einen Mann zum 2. Mal in die gleiche Stadt zu schicken. Soweit zur Frage der Fremdheit oder Einheimischkeit. Ich glaube, damit haben wir für heute früh unser Soll erfüllt.